vuole dire qualcosa di... E anche per amici del podcast, benvenuti al decimo episodio di Unstructured Heroes. Presentato da Arte. Che oggi è presentato da Calippi mal costruiti. Destrutturati. Invece no. Rescue my friends. Burning buildings. No one would ever. Superpowers pass. Lascia qua la sigla. È il computer che è rincoglionito. Ma tanto l'audio di solito viene dal podcast, no? Brucia. Va bene. Ma questa è una tisana. Sono tutte tisane queste in realtà. Oppure preferisci il tè? No, hai capito. Fai andare così senza dire niente. Sei in diretta. Allora, benvenuti, siete in diretta. Episodio 10 di Unstructured Heroes è un episodio speciale. Avete sentito, se siete in podcast, una voce particolare. Non era quella di Giulio. Su piccolo suggerimento. Cosa? Ma era quella di... Che schifo, è vero, in questa sessione abbiamo tante cose da dire. Uno, congratulazioni al dottor Gattino. Due, lo vedete perché vedo che lo vedete in diretta. Miau. Quello che vedete lì che sta sfogliando il manuale cercando di capire quanto petrolieri possano essere persone per comprarlo. Hai sentito? Ha detto 50 euro, neanche un bypass, che smerda. Cazzo. È l'unico, è vero, Jacopo Romano, ebbene sì, con noi. Tra poco andrà. non so se riusciremo a farlo giocare con noi, probabilmente no. Ok. Mi ha lasciato un po' di possibilità aperta. Lurido. E poi c'è un'altra persona che dovreste vedere in trasmissione, ed è il master che nell'ultima sessione non avete visto. E neanche sentito, tra l'altro. Non avete visto e neanche non sentito. Sono riuscito a aprirlo. Accaduto, sì. No, sei perfetto in verità, però sei un po' sacrificato. Vuoi tacciare? Grazie per questa news. Perché non li scopri? Clamoroso. Non so. Ah, c'è detto dopo quella sessione. Mi prego. Ema è interpretato da Dio la sessione. Lo sapevi di questa cosa? Beh, non mi sorprende. Era solo una domanda. Beh, il suo lavoro. Bellissima questa tazza, grazie. Va bene, detto questo, il titolo della puntata è 18.000 euro per un bypass. La puntata di oggi, episodio 10, si chiama Romanos 6. Sto cercando la mia faccia. Ma questo serve una K. Sì, quella roba che ha scritto non si legge sicuramente in diretta. No, 10 punti esperienze meno Vez. Cominciamo subito così. Invece che 20.000 euro per la gamba di scena, non fargli fare un bel passo. Costava meno. Cos'è che vuoi? È vero, cazzo. No, cosa? No, contestualizza. È un no. Catta, ma ti devo far vedere tutto. Che cosa? Devo insegnare a vivere. Ma non so, hai un bypass. Risolviamo questo problema in diretta subito. Non hai un bypass e non hai bisogno di un bypass. Mi date la mia scheda. Schede? Medico, abbiamo visto che è medico. Ma è medico. Vabbè, te lo può dire Arci che è un medico. Ce l'ha scritto anche la scheda. Medico. A proposito, tieni. Il primario. Primario Vezzo. Di quegli ospedali. Allora, se volete aiutare il nostro amico Jacopo ad avere un bypass gastrico, donate subito al 111. No, non lo uso per lavoro. Se avete una zecca in casa e non sapete come usarla, è impossibile trovare altre droghe. Va bene. Ok, avvisa gli ascoltatori che questi versi. Ogni tanto si sente le lezze, no? Qua si vede da Dio, guarda lì. Perché non abbiamo si, animali. Ti sarebbe non... quasi letto se sapessi scrivere un minimo non e non si fosse tutto cancellato. Ravez. Non abbiamo animali. Quanti punti esperienze meno vuoi? Dammi leggo. Attenzo, secondo me sei morto. Cosa c'è? Il gesso a sto punto. Il gesso. Qual è il problema? No. Lo cerco per quello. Ci fai per terra. Vabbè. Direi che possiamo iniziare e il riassunto della scorsa puntata lo fa Sceo. Che non era presente. Esatto. Così vediamo se l'hai se sei uno di quei 290 download. Non credo. Bravo. Non supporti la tua stessa. No, vado a guardare. La carta che gli ha passato le gomme. Io non dico niente. No, ho provato a guardare dopo 5 minuti. Non parlo. È in video, basta, sono dei bambini. Grazie, stavo per mangiarlo. Ciao. Dopo il sushi. Che è appunto. Ah, le ha messe lì. Disse l'uomo col calippo in mano. Ti guarda bene. Quando sei io quella là, mi sono stato da un casino. Va bene, direi che possiamo iniziare. Va bene, fammi un riassuntino. Beh, in poche parole, via Borgo Nuovo è molto più caloroso ultimamente. No, ma Sceo non hai ascoltato la puntata. Allora me lo fa... Scambiatevi di posto! No, 1, 2, 3, 4, tiriamo di 4. Io l'ho fatto l'ultima volta, fa cazzo. È vero. 4. Ma buono, fa chi ospita. Va bene, vai carta, riassumi. Ci eravamo lasciati che dovevamo organizzare il nostro piano malefico per forse la connessione un po'. Per sovvertire i piani malefici del professore, quando per colpa di qualcuno, io non faccio nomi, signor Gamberoni. Ma c'ho una donnina nuda sulla tazza. La Betty Page. Che bello che gli fa il giro rosso. Non me ne ero accorto. È una famosissima pinacchia, l'ho comprata io, bellissima. È bellissima. Beh, è un topo, però non... Cosa è scritto nel caso? È carino l'elefantino. Vado cinque anni. Ci ho messo anche la stella. E niente, ci siamo trovati a casa di Emma. Di David. Sì. Quando improvvisamente hanno fatto irruzione due uomini armati e Claudia, la nostra... arcinemica. L'angelo sud, quella era a metà del fight. Qui piace allungare la broda. Ci hanno interrotti al fight. Beh, capito, hai detto che stai allungando la broda, l'ha detto il capitano. Così, mi perdoni. E niente, cosa è successo? Dopo una serie di tiri molto poco produttivi nel cercare di spararsi addosso, il nostro caro Giulio ha deciso molto strategicamente di dare fuoco a tutto. Nonostante questo non bastava comunque per sconfiggere i nostri nemici e quindi a un certo punto abbiamo sentito una voce nella nostra testa che ci ha intimato di chiudere gli occhi. E abbiamo chiuso e ci siamo trovati in una puntata dei Looney Tunes sceneggiata da qualcuno che fa un uso pesante di sostanze allucinogene. Il master. Che viva Marsiglia. In questo sogno dove avevamo tutti le sembianze di animali, di creature antropomorfe, abbiamo dato sfogo a tutta la nostra creatività distruttiva. No, è tutto vero, cioè nel senso, nel termine di gioco, di ruolo, sì. E siamo riusciti a sconfiggere in sogno la versione scimmiesca di questa Claudia. Una volta che ci siamo risvegliati c'era tutto in fiamme intorno a noi e Claudia è svenuta. Sì, boh, si vede qualcuno ha dato fuoco alla casa mentre eravate. Magari era una fuga di gas. Sì, può darsi. Quindi molto diplomaticamente ho appoggiato la pistola alla tempia di Claudia. E poi siamo usciti di lì mentre la casa di Emma veniva consumata dalle fiamme. E vai. E vai. Dopodiché, se abbiamo, dato che avevamo scoperto che ci avevano scoperti, mettendo una spia nella gamba di Sheo, e Sheo era svenuto, abbiamo contattato il costruttore della gamba per far rimuovere questa spia e per farci dare dei consigli. L'operazione è stata un successo, e però Sheo è ancora svenuto a privo di sensi. E ora cosa facciamo? Ti ricordi che c'era forse un... ci ha parlato il tizio e la voce. Ci ha parlato Void, la voce si chiama. È vero, è quella cosa più importante. Lei non l'hai detto? No. Ecco. No, che forse è un'organizzazione antiprofessori. Un'organizzazione di studenti. Sì, contro il tornello. Sì, signor Tornello. Signor Tornello. Signore Tornello. Ah, badum, ciao, questo è tutto in post produzione. Previsate finti. Come mettono nel vassoio? Sì, no, volevo. L'ho fatto una cosa che non volevo fare. Sì, abbastanza. Va bene, quindi siete lì nella casa. No, nella taverna di Arci. E a un certo punto. Hai detto che Yak era tornato? No, non è tornato. No, non è più tornato. No, prima era tornato. Non l'hai detto, non hai detto che Yak è tornato. Quando è che è tornato? Da Eno, che è vivo. Già che sì, è vivo, ma ne avevamo già scoperto. Allora. Come potete vedere dalla diretta. Beh, cosa mi fai dire? Vivo. Visto adesso, parla più forte, non ti sento. Se ti è piaciuto Watch. Parla più forte. Tutta la puntata è un'intervista a Yak. Io lo so con Watch. Niente, volevamo pagare. Se è una domanda, Yak, parla del microfono. Che gli hanno pagato. No. Di chi è questo libro? No, c'è il nome sopra, Alessandro De Baroli. Scrivo proprio di Alessandro Rivarotti. Che salutiamo. Va bene, ci siamo. Ma la voce che ci aveva parlato ci risponde? Non avete parlato voi, quindi. Gli avevamo chiesto. Io no, io gli avevo chiesto chi era. Tu mi hai ignorato. Sono Void. Chiamatemi Void. Sì. E basta, ho detto nient'altro. Chiamatemi Void. E come ti possiamo contattare? Cerca sull'elenco Void. Vaffanculo. No, cattavo internet Void. Ci ho provato, ma ho fatto un tiro basso. Se non l'ho trovato. Certo. Sicuramente. No. Vi terrò d'occhio. Grazie. Prego. Beh, grazie per l'aiuto comunque. Possiamo darti del tuo o volete che gli diamo del Void? Tutte risate. Ho appena deciso di saranno le risate registrate. Ok, mentre siete lì che guardate i cellulari è realisticissima sta puntata. Sentite il rumore tipico di portali che si apre. Tra l'altro qua si vede benissimo. Esce Yak. Il rumore del portale che si apre. Yak. Ma dove qua siamo? Nell'ho già capito. Siete a casa tua. Dove eri finito? Okay. L'hai finito, Yak. Cosa è successo? Gioca o non gioca? Purtroppo. Non gioca. Cos'è se ascolti cosa stai combinando tu? Perché qua ci sei. Purtroppo non ho saputo aiutarvi contro Claudia. Ma ho avuto paura. Ma tu tutto bene, sei tutto a posto? Sei riuscito a fuggire in corno? Anzi, rivelatelo a lui, tutto a posto? Sei riuscito a fuggire in corno? La solita merda. Cioè, Yak è un'interpretazione di alto livello. Oscar. È come se giocassi tu. E... la solita merda, però sì, capisco la tua domanda. Sai cosa è successo, Yak? A parte che Sheo è svenuto. Finché con l'ispirazione, esatto. No, Yak, allora praticamente devi sapere che ci aveva attaccato sta tizia che è Claudia, la conosci, no? E quando con Matteo no, non... invece di tu la conosci Claudia. Vabbè, hai visto? Facile. Easy. Voi vi fate di qualcosa per fare questa minchia? Questo è in gioco, pretendo. Una tisana rossa. Allora, pretendo sia in gioco. Cioè, rega, ma... devi sapere, Yak, che... c'è una che si trasforma in un gatto, come cazzo. Però ti dico, Urban Heroes è almeno in un mondo in cui ci sono dei supereroi. Anche tu hai dei superpoteri. tipo Catuo, tipo io e Gen- allora non è su noi stessi. È noi stessi con delle versioni super potenti. Ma vaffanculo. Se no vivremmo e basta, non giocheremmo. Tipo te hai un potere che oltre a quello di sfrantumare i coglioni, hai il potere di creare dei portali e spostarti all'interno di quei portali. Grandissimo! Questi sono 10 punti esperienza per il master. E Giulio che potere ha? E glielo puoi chiedere adesso. Che potere hai? Nessuno. Abbiamo scoperto che il cellulare di Giulio fa fuoco e ha dato fuoco a tutta l'abitazione di Ema. Un potere sì, tipo, sarei felice di averlo. Sarei felice di averlo a casa Ema. Io non volevo. Oddio, la vita è successa. Quello oggettivamente non stai imitando Ema. Oh, ma siamo strati e strati di Ema. All'Inception. Che stai? Non siamo fuori tema, però. No, questa è la storia vera. Vabbè, comunque sia. Sparo fuoco. No, praticamente abbiamo combattuto con Claudia, ma non riusciamo a sconfiggerla a un certo punto. Ma Claudia chi caro non la conosce? Tu la, in teoria la conosci, cioè nel gioco la conosci. Ah, ma allora cioè, non conosci. Non sì. Conosci bene, la conosci nel senso che l'hai vista. Cioè, quando siamo stati catturati, loro ci hanno liberato. Claudia e questo professore ci hanno liberato. Però sto professore non l'abbiamo mai visto. Mentre Claudia sì. Tutto chiaro, ma è cristallino, hai capito? Tu dopo eri rimasto ferito in seguito a una sparatoria e loro ti hanno curato, però a quanto pare loro ti volevano costringere a... loro ti volevano costringere a collaborare con loro come hanno fatto con noi, solo che noi abbiamo accettato perché siamo delle marionette, mentre tu invece sei un puro e hai rifiutato e sei fuggito. Se non le ha molto leccato uno non hai inserito fede in tutta questa macchina. Non sono io lo sceneggiatore. Nessuno l'ha chiamato. Mi sembra molto lecchina. Nessuno in gioco l'ha chiamato. Tu hai un potere che puoi scappare perché crei portali nella dimensione. Comunque vabbè, adesso tu sei tornato a noi al montare della marea e ci hai detto che potresti aiutarci a distruggere il professore. Ma il professore è proprio. Sì. Può essere, potrebbe essere. È quello che ne sappiamo. Aspetta, l'hanno ucciso nel futuro, quindi non lo sapevo. Ma era molto vecchio. E magari era molto forte. Sicuramente se sei un prodi e mutaforma. Beh, l'ha ucciso al volo stupido. L'ha stettato io. È vero che sei un killer professionista. Ah, però qualcuno con la pancia l'ha stettato, Claudia. No, anche Claudia l'ha stettato. Ma Claudia è una figlia. L'ha sparato in bocca dopo. Claudia è figlia. Io però era la figlia. Claudia, la scimmia. Sì. Però da questo punto, beh, quando abbiamo sentito del piano, praticamente Sceo devi sapere che in una delle ultime missioni ha perso una gamba. Sì, e adesso... So. Eccolo. Come sentite, avete sentito dalla diretta, una tazza è stata rotta. Nessuna tazza è stata ferita durante le riprese. No. Non lo possiamo più dire. Adesso è il panico. Sei andato via. Potrebbe sgualcirsi. Attenzione, si potrebbe sgualcire, si potrebbe è lì che rischia di sgualcire. È lì che rischia di sgualcirsi. Ho presente il nervo. Grazie. Sulla sedia e quindi mi si è aperta la mano con la tazza. È un professore un palestrato, potrebbe avere questo di problemi. Ero troppo grosso e mi si è spaccata. Ah, niente, è finito. Troppo lo vediamo la manica. Hai la manica bagnata? Lo so. Bagnata, sgualcita. Che bagnata? Adesso non ce l'ho mai. Manica ha un appello molto abbastanza grande. Sono grosso. Guarda, sta la vendiamo. La vendiamo sia all'universo. Questa la vendiamo a. L'hai sgualcito, Arci. Questo è produzione Fandango. Oh mio Dio, è troppo realistico. È troppo realistico. Ma che cos'era? Yeah, che era acqua calda. No. No, no. Per fortuna non era la tazza di Tai Kun Sendrei. Non era la tazza di Tai Kun Sendrei. Alza il piedino che poi mi schiaccio. Era zuccherata. Va bene, a parte questi problemi tecnici, Sceo. No, io stavo raccontando a Yak cosa era successo, ma in questo momento è più pensato, penso più a altre cose. Ma intanto vabbè, continuiamo. Sceo era svenuto. Sceo. E la tisana al finocchio. Apri gli occhi. Per favore. Dove potevo buttartelo questo? Deve essere tipo anche lì sul vassoietto di alluminio. Grazie. Ma era solo acqua o c'era già la tisana? Bianca, la tisana era finocchio, non c'è olio dentro. No, prendiamo un po' d'acqua però. Problemi tecnici, lo scrivo qua. Sì, pubblicità. Ci scusiamo per l'interruzione. In verità che stiamo cercando. Compra anche tu un folletto che non si chiama folletto. Molto bene. Okay. Guarda, se avessi 18.000 euro farebbe il podcast. Stiamo perdendo tempo per far finire Fumble in modo che non sovrapporci. Sicuramente abbiamo appena rubato 56.000. Tanto quando venderemo sta roba vigliacca. No, ma fammo guardarci. Allora così. Ah, ah, ancora. Sì, no, ma è stato fortissimo. È stata una roba così terribile. Madonna. Volete il track? C'è la caraffa lì. Tutti questi muscoli e poi... Poi un... E poi i nervi, e poi i nervi improvvisamente non hanno muscoli, Giulio. Così sei macchiato, non macchiato la cosa. No. Ma dici che devo portarlo da no. No, è da buttare, ya. Ah, non credo che ci possa... Ah, io la butterei. Se hai 20.000 euro invece che un bypass ti fai un braccio. Yaka, aspetta che si asciughi. Se la butti tutta insieme, che ne so, nella varichina, dopo diventa bianco uniforme. Se la butti tutta nella tisana. No, in teoria non dovrebbe essere. No, è grave, Michela è grave. Non indorargli la pillola. Tutto questo è. Va bene, comunque, Sceo dicevi, apri gli occhi. Aspetta, e ti guardi intorno. Aspetta, controllo un attimo su internet perché io mi ricordo che un mio amico dopo essersi spaccato la giacca non è durato molto. Cioè, tipo è morto una settimana dopo. Ma è quello che c'era l'epitaffio la sua settimana? Si è sporcato la giacca. No, ma adesso sto scegliendo. Che tessuto è? Sì, anche quello del mio amico, ripeto. Se è stato cotone o... Per il design di finocchio e yacca combinazione che... Ma era quello con scritto pensavo che l'impermeabile non servisse. Si formano dei legami di idrogeno. Comunque dicevo, apri gli occhi. Tanto non hai caldo. Vabbè, comunque. Ti guardi intorno e vedi una palestra. Quella palestra. Devo metterci dentro un po' che una palestra. No. Quella palestra. La palestra. Quella la palestra. Quella è la palestra. In mezzo c'è un buco. E in un angolo c'è un tipo una... cunetta e intorno sono delle armi e delle... c'è un buco nel senso... stai facendo sì. C'è al centro della stanza? Sì, c'è un buco nel senso come se da sotto fosse esploso qualcosa. Ok. Vuoi preso la sceneggiatura da Space Jam? Ovvio. La palestra di Space Jam? Cartoons? Sì, sì. Quella. Ok. E c'è una sorta di buco in un lato, nel abbastanza parquet. Grosso. Sì, no, ok. Nel tipo cunetta, sì. Come se il pavimento fosse deformato verso il basso. E non c'è nessuno? No. Finestre? No. È illuminato però? Sì. C'è molto... tipo luci... Ok. Mi alzo in piedi, tutto bene? Ti alzi in piedi, sì. Le gambe? Vabbè, sono... Ti guardi le gambe? Sì. Tutto bene? Non ci sono... Guardando le gambe vedi che hai due gambe. Tipo da uccello. Ma dai, io volevo essere quella roba. Ok, mi guardo le mani. Vabbè, fambole contro. Mi guardo le mani. Ti guardi le mani e non hai mani. O meglio, hai... Facendo così vedi le mani, però chiudendole vedi solo un'ala. Cioè due ali. Figo, c'è uno specchio da qualche parte, qualcosa su. Ti puoi specchiare su, sì, in un lato c'è una sorta di lama piuttosto grande, ti specchi e vedi un becco da pollo e sei un grosso gallo. Che figata. Me l'ha preso. Ok. Cosa la band del sole luminoso? Almeno. No. Preso un po' dal panico, comincio a guardare intorno alla ricerca di segni di qualcuno, di qualche presenza. Non ha dei vestiti troppo... Allora, ha solo un berrettino verde e una magliettina tipo polo. rossa. Guardando intorno vedi in alto, vedi una sorta di sagoma sul tetto da cui filtra la luce. Ok. Perché gli non ride, capito che è un po'... Una sagoma... È ancora in tutto. Una sagoma con la forma tipo di una sorta di animale così, e una che ha una coda sul tetto. L'altra cosa che vedi... Bypassato. Hai visto questo? C'è un buco, una sorta di tunnel da una parte della palestra che va verso il sotto la palestra e basta, nient'altro. Allora mi avvicino ai vari buchi, tunnel, ah, vedi che il tunnel è abbastanza, non è lunghissimo, passa sotto la palestra e arriva in mezzo al buco. Ok. E vedi che ti avvicini all'altro, quella roba tipo scavata, e vedi che è come una, se fosse, ci avesse sbattuto qualcosa di molto pesante, tondo, che avesse deformato, è quasi un cratere, sì, ha deformato il pavimento in modo che si abbassasse. Okay. E sotto anche lì vedi una sagomina tipo quella che c'è sul tetto. Sotto c'è, cioè, la fine del, c'è cratere, la fine del cratere, sì, in mezzo. Buco, vedere se c'è qualcosa. Vedi dei, vedi dei peli. Dei peli? Sì. Ma non c'è nessuno però. Vedi com'è la sagomina, La sagomina, vedi appunto una sagomina, vedi una testolina tipo, cioè la sagoma di una testa tipo, sai quelle di un orsetto stilizzato, come se fosse un Winnie the Pooh spataccato. Sì. E una coda anche, cioè nella sagoma c'è una coda. Ok, le sensazioni? Cioè mi sento drogato, mi sento bene. No, senti bene. Beh, okay. Sei per un cazzo di gallo. Ti senti abbastanza bene. Provo a parlare. Parli, però fai un po' mentre parli, okay. Però parli normale. Però riesco a parlare, ok. E niente, quindi non c'è una via d'uscita, di fatto. Non ti pare. È un gallo. Ok. Si sta riprendendo dalla... Vabbè, e quindi? Quindi non so. Non si riprenderà. Provo a... Oh. Scusami, c'è solo il tunnel, che in realtà è... E ritorno nella parte. È come se il tunnel fosse scavato... Però finisse dove c'è il cratere in mezzo. Okay, l'ho fatto io. Cioè la palestra, tunnel va sotto, si ferma al centro in cui è tutto aperto e sopra vedi una sagoma sul tetto. Ok, ho possibilità di raggiungere il tetto. E puoi provare a sbattagliare. Ma sono un gallo. Posso provare? Cioè, sì, ma ci farei divertire. Però. Ci provo, ovvio. Riesce un po' a saltellare, riesce un po' a saltellare, andare un po' più in alto, ma non arrivi al tetto. C'è qualcosa per cui... Beh, potresti usare uno dei tanti strumenti, c'è il... Sì, ci sono i canestri, c'è un tappeto elastico. Tappeto elastico. Va bene, tira 2 di 6. Oh. 4 e 6. Riesci a rimbalzare dal canestro sul tappeto elastico, darti la spinta, e arrivi e ti aggrappi. Al tetto, sì, col becco. Ci sta. E salgo. Mi arrampico. E sali. Come ti arrampichi, vedi una luce accecante e ti svegli che sei nella cosa di Arci. Nella palestra? No. No, nel, sì, nella palestra di Arci. Ceo! Svegliati! Boh! Mi guardo le mani. E sei tu, le gambe sono corte, però come prima. Non di più, grazie. Ehi, sei ripreso? Sì, Yark, devi sapere che Sceo è tipo più basso di 20 cm del normale, però tutto nelle gambe, quindi è un po' sproporzionato. Sceo, tutto bene? Credo di sì, ho fatto un sogno un po' strano, ma... Sognavo di essere un gallo abbastanza imbarazzante. Ma... Posto, io un ippopotamo. Ah, anche voi avete fatto sogni simili? Sì, e non era un sogno, a quanto pare. Era un potere che ci ha permesso di sconfiggere Klaus, esatto. Sul serio? E perché? Io ero da solo, però. Oddio, c'erano un sacco di altri rimani. Tu non abbiamo capito perché non eri con noi in quel momento. Ah sì, perché era assente la scorsa volta. Meta game. Beh, non lo so, mi sono svegliato, ero in questa palestra. E c'erano dei buchi, tipo un'esplosione. Altre sagome di altri animali. Abbiamo combattuto con Claudia. Vabbè, non volevo togliere. Ah, okay. Claudia è stata trasformata in questo mondo in una scimmia. Una scimmietta. E io in un ippopotamo. E Kat in una talpa. E Vez in un pitbull con la bombetta. Ma raga, vi siete drogati? Un ghiacciolino. E Giulio in un... C'è proprio il ghiacciolo. Un gattino. Il gatto con gli stivali. E abbiamo combattuto noi questa scimmietta combattendo però a modalità cartoni. Quindi Katta con la palla ha cercato di farla esplodere, lei si è schiantata contro... Io l'ho colpita facendola finire sopra alla X. È andata a esplodere, abbiamo combattuto, è un po' pestata, alla fine l'hanno uccisa e nella vita reale si è ripercosso con Claudia che era svenuta. E Katta, in maniera molto diplomatica, ha sparato in testa. La stetta! Ah, tu devi sapere che hai lastettato una persona prima di... Dopodiché siamo riusciti. Dopodiché comunque eravamo feriti perché Claudia ci ha quasi ammazzato nel combattimento, quindi ci siamo riparati in cantina da me dove Katta ci ha curato. Grazie. Con un po' di oggetti di primo soccorso ci siamo ripigliati. E tu però hai svenuto, e allora sei svegliato. Io se sono mezzi squagliati vi do cucchiaini e. Io e direi che sta bene. E rega, quindi avete saputo qualcosa di quel tizio che vi ha fatto drogare? Mi piace un po'. Sì, ti ha detto che si chiama Void, Yak. L'hai già sentito questo nome, Yak? No. Tira, Yak. Yak, tira un dado. Un di 6. Tieni. No. Tiralo e basta. La voglia di vivere è sparita. Ma, devi tirarla e basta, non fa niente di male. Raga, mi avete sgualcito la giacca. Uno. Dai, Yak, fai un tiro normale. Tiralo facendo lo rotolare, così. Dai, fai un tiro normale, dai. Dai, non è difficile. Ecco, dai. Due. No, non l'ho mai sentito. Ciao Miki, grazie. Ciao, grazie di tutto. Scusatemi, no, figurati. Faccio la vecchia. Va bene. Non si sente quando ci ha parlato Void, si sentiva qualcosa della sua voce di familiare? No. Beh, questo non era neanche fatto male. Anche il mio primo è che sono male. Un po' come quello di Giulio. Evidentemente quelli erano più in alto e quelli più in basso. Sono tutti destrutturati. Se parliamo troppo forte comincia a bussare tipo smettete di rompere i tappi delle orecchie, non dovrebbero. Rossi da cini, sono quelli normali. Ok, non che io so. Dicevo, perché rega magari potremmo farci aiutare da lui per... Il professore. Stai parlando di due cose diverse. Sì, anche un potere. Sì, ho due poteri. Posso creare una dimensione in cui parlo di cazzate e una in cui parlo di cazzate davvero. Sì, questa è la nostra idea di contattare questo Void. Ma tu hai un contatto, Ian? Sì, ma no, e se voi lo conoscevate. Noi non abbiamo un contatto con questo Void. Però potremmo provare o a metterci nei guai di nuovo o a chiudere gli occhi. Sì, quando abbiamo chiuso gli occhi siamo diventati dei cartoni animati e abbiamo avuto sconfiggere Claudia. Beh, gli ho detto che ci terrà d'occhio, quindi avrà sicuramente dei modi di interagire con noi senza che noi lo sappiamo. Ah, ma volete fare il piano che diceva Yak adesso? Sì. No, e il piano era di sentire questo Void e la parte di dirgli solo voi, arrivederci, era di capire se magari poteva offrirci qualche posto di lavoro nella sua organizzazione. Sì, ma come facciamo a contattarlo? Magari anche un tizio. Gli ho chiesto come facciamo a contattarti e lui ha detto esatto. Baby. Proviamo a urlare void chiudendo gli occhi. Oppure pensarlo molto intensamente. Provo a chiamarlo concentrandomi tantissimo. Tu. In che senso, scusa? Ah, ho vinto, devi vedere esatto. Anche come. Cioè, tu provi a chiamarlo concentrandoti. Sì. Cioè, ti concentri, void. Quando lui ci parlava nella testa, non gli poteva rispondere. Sì. Ma non è il prova a fare la stessa cosa. È un quadro che ci hanno regalato i genitori da me. Ma su che cos'era? Bull and Frankfurt. Esatto. È di questo pittore. Sei un esperto d'arte, Arci. Il realista, vedi come fa le foto, i riflessi belle. Super bello. I riflessi vedi una lampada riflessi. Ma sembra una foto. Sì. E invece un ritratto. Ma visto vicino da lontano. È un ritratto. Ma è cubistico. È monocromatico. Cioè ogni colore è monocromatico. Per antonomasia. No, è una foto, è un quadro. Scusa, non è un quadro cubistico. Sì. Non vedi che tipo il coso è quadrato. Le vetrate sono cubiste. Esatto. No, è sembrato da 40 più. Ma che colori usa? L'americano. Colori così simili alla forma. Americano. Richel Est Nedic. No cazzo vuol dire. Va bene, dopo questa parentesi artistica, dicevo no, non riesce a contattare voi. La cosa bella è che chi ti sta guardando non mi vedevi. Ma c'è spettatori, no? Non c'è nessuno che sta guardando. Il nome che abbiamo detto ad alta voce per capire quale. Però quelli del podcast hanno capito tutto invece. Com'è? Quindi no, dicevo, ti concentri, ma. Dai raga, allora se volete riposarvi potete riposarvi, però io farei questa cosa perché sennò professore siamo un po' stanchi, ecco. Ma no, ci siamo ripresi abbastanza con i PF, no? Sì, ma sì, tipo siamo abbastanza affaticati e stressati. Americani. Provati psicologicamente. O ci prendiamo un po' di riposo e poi decidiamo il da farsi. Movimento fotorealista. Se volete oggi è giovedì, possiamo provare a farlo tipo 4 giorni sabato di notte. Riposo mi serve. Mi devi di notte? Anche. No, quanto devi stare di riposo? 4 giorni. Ma per chi? Per me. 4 giorni. Mm. Abbiamo 4 giorni. Sì, perché chi è che non ce li dà? Yak. No. Come volete, raga. Però, secondo me, noi ora siamo veramente in pericolo. Sì. No, scusate, io ho perso qualche passaggio. Siccome l'ho svenuto. Mm-hmm. Certo. Allora, lì è mandato a fuoco. No, questo è ok. Il piano. E non ti preoccupa? Il piano è. Lui può tornare. Siamo rimasti a quello? Sì. Ok. Chi ha dei contatti? Ho capito, bruciate la casa dei miei contatti, cosa devo fare? Sì, però effettivamente siamo un po' debilitati tutti quanti con PF, okay, punti allora, psiche. Quando ero debilitato io non sembrava un grosso problema. Ma adesso fino alla fine del gioco con sta cazzata. No, ma io dico nel gioco, lo dico. Mi crei un attimo un secondo un clone. Allora, potremmo. Dovresti vedermi nudo. No, vorrei starlo un attimo, gratis. Potremmo. Tanto questo voi ci può trovare anche se ci nascondiamo, nel senso ha metodi per cui ci contatta, per cui anche se noi abbiamo un posto nascosto, un altro posto nascosto lui comunque ci può trovare, no? Quindi è inutile andare in un posto o in un altro, andiamo ognuno a casa sua, ci riposiamo, ci diamo appuntamento anche tutti i giorni volendo, ci possiamo vedere, decidiamo un giorno. E da qui a quel giorno ci possiamo, volendo, incoraggiare, riposare, recuperare e poi partiamo. E il piano direi che rimaniamo... Ho capito, però il discorso è, possiamo aspettare 4 giorni? Per me? Fa molta differenza, secondo me. Cioè, muoversi adesso sicuramente, dato che siamo tutti feriti e debilitati, è un suicidio. Però così Beh, sarebbe contento. No, per me è uguale, solo che, cioè, diciamo... come dire no ma Kat è leader ed è ferito. Kat è leader quello che cura ed è ferito, deve curare gli altri, no, ha capito. Cos'è questa voce? Il DPS l'abbiamo noi e comunque siamo feriti a parte te, come volete. Rega, cioè a me, io poi devo anche andare a lavorare domani, però il discorso è anch'io. Dipende se ci beccano tutto o ci ammazzano. Io cioè, non so se devo andare a lavorare. È vero, c'è una becca la cosa, la giustificazione. Ce l'aveva col professore, adesso non lo so. Ciao, Yak. Ciao, belle. Ecco, Pino. Grazie per la tua presenza. Saluta in camera. Con questo. Fai un saluto a tutti. No. No. Ecco, Pino. Bella. Va bene, avete visto Yak? Ciao. A che ora apro il lavanderino? Domani è sabato, è una brutta giornata, mi sa. No, stanno aperte le lavanderie. No, c'è una salata. Andiamo domani. Sì. Domani. Come scavi con sto piede? Domani Mi dispiace che Arci ti abbia rovinato la serata. No, non mi ha rovinato. Ci sentiamo. Era già una mia rovinata. Ma c'è stato schifo la mia vita. Io dormendo 2 ore la scorsa notte. Non mi ha rovinato la serata. Va bene, dai. Non mi reggo in piedi. Speriamo che non sia l'ultima volta che ti vediamo in trasmissione. Beh, vi sta tisana. Sicuro. Magari in un posto senza tisane. Quello sicuro. Senza Arci. Magari in videochiamata. In una stanza sterile, un polmone d'acciaio. Grazie, Camera bianca, non posso avere nessuno. Beh, però un dado l'ha tirato. Un dado l'ha tirato, la soddisfazione. Sperando. E anche fatto capire che la mia interpretazione è impeccabile. Come in ogni solo. Caso per me ci sta per recuperare punti. Ciao Yak, sì, per riposarci. A domani. Magari potremmo aspettare volutamente sperando che voi ci contatti. Diciamo così, da roleplay, il fatto che noi siamo andati... Perché così l'amico perché sia io che Giulio, sia io che Giulio che Kat abbiamo rischiato parecchio. No, ma io sono d'accordo con riposarci. Questo diciamo che abbiamo rischiato di morire da Claudio, quindi ci sta che da sono, feriti sono non d'accordo. Vogliamo partire nuovamente. Io... Come volete, Riga? Io farei, se è giovedì, di partire lunedì, cioè per riposare venerdì, sabato, domenica. Io preferirei nel weekend. Ma lui vuole aspettare di più, oppure facciamo il weekend prossimo, che vorrebbe dire 10 giorni. Cioè, non lo so, nel senso, noi potremmo non farlo mai, cioè, il problema è, secondo me è questo, o lo facciamo adesso, oppure non cambierà troppo, perché se non ci ammazzano domani... Ma adesso è un suicidio. Volendo però una cosa potremmo farlo. Il discorso è questo, se loro sanno che noi abbiamo ammazzato Claudia, e probabilmente lo sanno, ci vengeranno ad ammazzare domani. Però o anche posso adesso. Fare una controproposta. Potremmo... Però come volete. In realtà, se secondo me, potrebbe anche esserci una seconda chance. Nel senso che se loro scoprono che abbiamo ammazzato Claudia, non sapendo come l'abbiamo ammazzata, sicuramente ci debuttano un P, visto che Claudia ci avrebbe stuprato senza problemi. Sì. Direi che mandano più uomini per ammazzarci. No, questo non è detto, era loro. Detto, perché il professore sembra molto un volta faccia. Io lo farei adesso, non perché... Io una cosa però adesso la farei sicuro. Intanto mandare Yak là e capire che posto è. O ci nascondiamo. Già. No, ma la posizione... Ma Riga, come faccio a darvi la posizione? Con il GPS. Ma siete sicuri che il vostro smartphone funzioni? Sì, ti diamo quello di Giulio, funziona benissimo. No, però potremmo fare questa cosa così intanto, se non funziona intanto in questi giorni, qualcuno che magari sa usare internet può trovare le mappe di quel posto, robe del genere. Okay. Cioè qualcuno sa usare internet, si faccia avanti. E se non funzionasse? Se non tentativo fallito. Vabbè, quello uno ci prova, non è quello il problema, il discorso è che... Però farei in ogni caso subito quello. Io, farei tutto subito, ma ripeto, non per mancanza di rispetto a voi, alle vostre idee, semplicemente perché in teoria loro sanno già che siamo stati noi. Ma siamo debilitati, cioè allora diciamo ammazziamoci. Lo so, però se domani ognuno a casa nostra ci arriva e gli agenti del professore ci ammazzano, essere debilitati o meno. Questa però è una possibilità, non è una certezza. Mentre andare dal professore a dire ammazza, ci siamo debilitati, è una certezza. Come volete, raga. Però allora io mi nasconderei. Cioè, sì, va bene, quello ci può stare. È quello che dicevo, il problema è che... Solo che io lo potrei. Il problema è che Void ci può... Da quello che ho capito, per esatto. Come ci contatta lui, anche se ti nascondi, è indifferente. Void ha detto che ci tiene d'occhio, quindi secondo me se il professore ci viene proprio a rompere il cazzo in questi tre giorni, può intervenire a darci una mano. No, speriamo così. Se no, vabbè, sarà alla fine, ci vedremo. Nel senso. Ah, riga magari. Oppure tu Yak ovviamente nasconditi come hai fatto finora, sei quello aspetta, che ha più aspetta, possibilità altrimenti di salvarsi. Potremmo rimanere uniti in questi giorni comunque. Chi ha detto che dobbiamo tornare a sì, lavoro con me? Io in teoria devo andare a lavorare. Ragazzi, puoi avere anche l'influenza e ci stiamo tutti al casetto è per settembre. Qualche giorno. A settembre non esiste niente. Al casetto già ci ha ammazzato una volta. Va bene, era per dire un posto qualunque, cioè tutti nello stesso posto, rimaniamo uniti, questo si può fare. Riga, e se invece ci facessimo, sì, pianificassimo insieme questa cosa, secondo me in questo ci starebbe. Cioè, secondo me l'idea è mandare Yak là per cercare di capire dov'è il posto, che posto è tutto, rimandarlo indietro e poi stare qualche giorno insieme a pianificare qualcosa. Sì. Va bene, proviamo. Però dovete assicurarmi che io vado là e. Però voglio riesco. Che ci metti la stessa sensibilità con cui hai pianificato il Signore degli Anelli. Non ha tutto quel tempo. Il fatto di avere gli altri tra i contatti mi aiuta. Non ha ore e ore di. Il fatto di avere gli altri tra i contatti mi aiuta credo a spiegargli. Che sia un problema, a spiegargli. A tira su sociale, la difficoltà è 8. Devi usare un punto psiche. No, la difficoltà è 5. Se ci perdi un po' di tempo diventa 4. Dai, ci perdo tempo. Tipo un'ora e un paio d'ore. Ma il fatto che sia un mio contatto non mi dà un vantaggio. Tipo un paio d'ore. Vabbè, 4. Un paio d'ore. Che perché? Raga, lo conoscete. Avete visto? Sì. Boh! 6. Ovezzino, grazie. Penso di aver capito. Non capisco perché comprate ste merde. Ma... Puoi andare lì se vuoi. Intanto che gli spiega però così questa cosa, faccio in tempo a curarmi due volte. Così sei la diretta e ci si sembra. Sì. E gli ha insegnato a mandare la posizione GPS lì non ti si sente sicuro. Way. Questo abbiamo parlerò più forte. Però Vezzino, sei sicuro che io vado là e riesco a mandare la posizione e riesco sai, a sala un po' più anche che cazzo questa cosa. Ho fatto 6, yak! E chi è il cellulare? Vabbè, sarà il mio. D'accordo. Gli hai detto di mandare... Adatto, io c'ho già l'altro. Gli hai insegnato, ascoltami, gli hai insegnato a mandare la posizione. No, no, no, esatto. Ma cazzo, non ce l'avrò però. Non gli, l'avrò. Gli hai insegnato a mandare la posizione GPS su Thunderbolt, così ce l'abbiamo subito tutti. Sì. D'accordo, vado. La mia D4 che tira Yak per compreso Salla. Tecnologia e mente. Beh, tanto può fare una prova qua dove siamo. Poi, esatto, tanto possiamo fargli a provare qua. Sì, poi... nelle due ore direi che lo si può fare. Con le due ore l'ha già provato. E poi rifare la stessa ci cosa. Ci riesco, vicino. Guarda. Guarda. Cazzo è. Già me lo immagino quando è là che deve tirare il D4, uno fa mezzo. Va bene, rega. Ci vediamo dall'altra parte. Sì. Ci vediamo dall'altra parte. Apre il portale. Ma come dall'altra parte? Torni qua. Senso. Vado. Cioè, nel senso di nuovo? Per quando mentre lo spiegavo. Adesso la posizione adesso? Sì. Ok, ti arriva la posizione. Su Thunderwave arriva. Su Thunderwave, sì. Quindi anche a te, in Marsiglia, ti arriva la posizione di un posto, mandato da mezzo. E ci va a Sal. E poi dopo un po' torna Yak e fa... Riga, ci ho rischiato di brutto. Cos'hai visto lì, Yak? C'erano tipo tre persone che... cioè... mi avevano visto praticamente. Cioè, non so se mi hanno visto, però penso di sì. Cioè, mi stavano per uccidere. Quelle guardie che hai descritto l'altra volta. Dov'è la posizione? Sto dico, sto pensare. Erano armate, Yak? Sì, erano armate. Erano quelli che avevi descritto l'altra volta. Tipo quelli, sì. Cioè, dov'è mappa in sto cazzo di cosa? Ma sì, mappa. Mappa. Per questo non toccare lì. Devi immaginarti il mondo reale, non è che devi guardare la mappa dell'ambientazione. Non ce la mappa. Si chiama Google Maps, la mappa dell'ambientazione. Ok, grazie. Ok, quindi vi arriva la posizione ed è una posizione vicino a Firenze. Porco giù. È tipo dalle parti, è tra Firenze e Prato. Ok, io propongo un po' isolate in boscaglio. Vabbè, comunque effettivamente adesso che ci penso dobbiamo andarla in macchina, quindi dobbiamo fare un altro giorno. Allora, io propongo in ogni caso di restare uniti, potremmo passare il weekend a Bologna e pensare no, cioè non spostarci subito, passare il weekend a Bologna, ma tipo sabato sera non possiamo farlo, ma che ventola c'hai, potremmo cominciare a partire, cioè non so, adesso è giovedì, che giochi ora, scusami, è notte fonda, saranno le 4, no? Io propongo di stare 3-4 giorni qui. Vabbè, ci ho messo 2 ore a spiegare che cazzo. 3-4 giorni qui e pianificare qualcosa. Stare in un posto dove abbiamo accesso a internet, quindi il casetto non lo so. Ci vediamo domani, domani sera da anche da me. Ma non solo la sera, io direi proprio di dormire e stare insieme. A parte chi deve andare a lavorare, ok, ovviamente. Però direi comunque di tenere una base, tra virgolette. Chiaro? Perché voglio dire. Non so, tipo via Fondazza da te che è libera? No, via Fondazza da me non era libera? No, era libera ma non c'era internet, se questo che no, l'internet intendevo che se vai a mia madre comunque, cioè nel senso non ho tipo neanche le chiavi nella realtà. Cioè adesso ce le ho, ma all'epoca no. Chiedere. Mia madre in teoria, visto che è un giovedì, probabilmente è al casetto, quindi no. Cioè, oddio, probabilmente le avrà in casa, però non lo so. Vabbè, mettiamoci le cose su un posto. Intendevo internet. Non rega, preferirei non fosse lì perché già che avete distrutto una. Già che tu l'hai distrutto una casa di cosa. Cioè, va bene trovarsi il coso, però se adesso state qua, io vi consiglio di stare qua. Io è qua in cantina. Se c'è che abbiamo in cantina. Io intendevo, io avevo proposto quella semplicemente perché non ci sono altre persone da coinvolgere. Cioè, mi piacerebbe avere un posto dove stare insieme, ma dove non ci siano altre persone. Io ho un appartamento sfitto a Calderino. Potrebbe essere più che adeguato. Che cattaccia le cose, per non è. Non play. Io cioè, mi piacerebbe perché siamo andiamo tutti a Marsiglia. Di non coinvolgere altre persone della famiglia, per quello non dicevano casa sua, capisci? E non casa mia o niente, casa mia. Andiamo tutti a Marsiglia. Va bene. Casa di Arce mi hanno marittimo. Oh, anche. Anche? No, per assurdo. Oddio, dobbiamo andare. Comodo. Non proprio. Però se lui propone un appartamento. In ogni caso, mettiamoci d'accordo su quando partire. Ma io aspetterei, allora. È giovedì. Cioè, l'idea di refullarci va bene a tutti. Aspetta, sì, è giovedì, già quasi venerdì ormai, giusto? Sono le 4. Io penso che il weekend ormai lo passiamo a Bologna. Scusate, ma se domani in sera pianifichiamo, lo facciamo sabato sera. Aspetta di rifullarci. Avete due giorni, rega. A me avete dato tre ore per rifullarci. Sì, ma tu eri uno. E voi con quattro due. Sani. No, noi siamo uno, due. Lui è storto di presente partenza. Io, rega, non sto bene. E Yak. Vabbè, tu Yak sei full. Facciamo una cosa. Senso, non sto bene. Facciamo una bene psicologicamente. Rega, cioè, vedete. Allora, facciamo così. Magari Yak usa dei punti. Passiamo. Rega, io durante la settimana lavoro, sono sempre lì. Allora, passiamo tutto il venerdì. No, è un cazzo di stage, non posso prendere due giorni avanti. Ti puoi ammalare. Sei interpretazione, vero? No, non posso ammalarmi. Se ti ammali, vai al lavoro? Sì. Questa è vera interpretazione. Funziona così. No, vuoi vederti nel lavoro con 40 di febbre? Non è capitato all'epoca, ma nel caso ci sarei dovuto andare. No, nel caso di te. E invece nel gioco di ruolo capita, perché ora è la febbre. No, vabbè. Vabbè, facciamo così, passiamo tutto venerdì e buona parte del sabato. Poi cioè, io non ho capito, io sono dovuto venire con una spalla spazzata, voi ci avete due cose. Ma non ci vuole una laurea per capirlo. Se tu sei se uno solo è storto, gli altri quattro possono agire. Ma il cosa, team... cosa avete di immagine? Adesso non capisco. Cosa si stiamo messo? A me mancano 4 punti di fatica e 2 psichi. Ti sembra interpretazione. C'è da vedere se siete semplicemente stanchi. No, sono anche cioè, sì, è esattamente così. Vabbè, rega, fate no, come volete. Esco e vado a casa. È esattamente così. No, perché invece punti psiche sono anche stanchezza. Non che una è niente, che dici però, cazzate. Però se lui ti guarda, tu sei solo stanco. Esatto, siete semplicemente stanchi. Va bene, sì, rega, è... come volete. Esco e vado a casa. Ci sta, ci sta, no, ci sta. Non sono, cioè, io non sono solo stanco. Fatevi sapere quanto avete deciso. Io ho anche ancora 10 danni alla testa. 10 una testa e 30 una gamba. Mica, io se ne avevo tipo 80. Si muove da solo, Vez. Ero io e voi siete voi. Ma no, ma Vez, se su 5 persone 4 sono storte, il team ha una pecca di 4 su 5. Sì, ho capito, se uno è coglione, sono è 1 su 5. Da vedere per me siete semplicemente stanchi e basta. Ma no, se noi ti spieghiamo che i nostri poteri ci debilitano, c'è. Allora, Giulio ha qualche livido sulle gambe e braccia. Braccia e busto. Testa alla fine mi ha cioè, qualche linea. Vabbè, io ovviamente come rimango una macchia viola. Sì, sì, sì, no, per me io rimango di questa impressione, perché dico vabbè, raga, come volete voi, avete sempre ragione voi. A me non te lo diciamo, io te lo dico. No, ci sta. Dico, beh, quando se io avete... usare il potere mi quando mi avete stanco deciso, molto la testa e non riesco a utilizzarlo, ditemi quando avete cioè... deciso, quando avete deciso e siete al 100% di tutte le vostre cose. Ditemelo e ci se no propongo una cosa, ti sparo nelle gambe e andiamo tutti quanti così, siamo tutti sullo stesso piano. Vabbè, sicuramente se avessi una gamba spazzata via, con tutto rispetto, andremo adesso seduta stante, questo è poco ma sicuro. L'unica cosa che ho detto, rimaniamo uniti, quindi non uscire. Vabbè, Vez va, esce. Io devo andare, esce. Vai a lavorare domani, ma non adesso. Sì. Vabbè, Vez, no, vai da solo a fare la missione, visto che tanto io a quelli di sto, cioè, no? Semplicemente no, siete voi che vi lamentate perché avete due lividi. Io non mi sono ancora lontano, non esatto, trovate tu e i tuoi cloni, visto che tanto siete 5 sani, e fai la missione. No, per carità, muoio. Vabbè, posso farlo anch'io se volete. Visto no, visto che va bene, Vezza esce dalla cantina. Fatemi sapere, domani se volete finalmente. Ora possiamo fare il piano. No, vabbè, io propongo di vedere sabato metà giornata come siamo messi, se è il caso di partire o no. Ci sta. È giovedì barra venerdì. Cioè, diciamo così, tu catta quanti giorni dovresti prenderti per riprenderti a pieno? Dovrebbero essere minimo 2, ma sarebbe meglio 4. Vabbè, però hanno un paio di giorni di assenza. Ma in teoria ti spiego. Vabbè, allora, sono stress, devo stare almeno... Sabato a pranzo decidiamo cosa fare. Perché? Perché così è un giorno e mezzo barra 2 di riposo e vediamo come stiamo. Oggi non possiamo sapere quanti giorni come stia. Ok. A pranzo decidiamo. Allora. Anch'io ho un punto fatica comunque. Cosa fate? Cosa fate? Ah, sono le 4. Anche io. Cosa fate venerdì? Lavoro. Quindi io non lo so, devo andare a lavorare o. Sì, in teoria. Come vuoi, dimmi. No, nel senso, visto che tutto quello che. Però è rimasto che gli abbiamo detto che i suoi genitori sono convinti. Vabbè, adesso vediamo. Chiama a casa e senti come si è messo. Cosa devo dire? Cioè, non capisco. Chiama tipo tua zia. Avvertili se domani ci sono. Quello che non capisco. Non so, dimmi tu. O se no camp vai davanti al bar, vedi se tua zia si nervosisce perché manca Sceo, o se invece è convinta che tu ci sia. Beh, il telefono nel caso non arrivi. Non capisco. Scusa, però. Ah, con ordine, Vez va al lavoro. Sì, io da. Cioè. Aspetta. Da quando è successo tutto? Lui è andato a informarsi, bla bla bla. Era il professore che però riusciva a ingannare. Pare che, esatto. Ora siamo contro il professore. Ma io mi porto dietro anche, scusami, mi porto dietro anche il secondo telefono che avevo comprato un altro cellulare, che ci avevo messo sì. Sì. Mi porto anche dietro. Vabbè. E il taser. Vabbè. Tutto quello che posso. E Sceo. Un coltellino sì. Sceo. Vabbè, vado a lavorare. Perfetto. Giulio. Cazzo, in teoria facevo anche venerdì sera. Bravo. Mi riposo. Beh, magari si è appena mi riposo e metto in cassaforte la pistola che ho fregato il tipo. Va bene. E io cosa succede da lavoro? Niente, va al lavoro come se fosse tutti i giorni. Perché ti ho detto che è tutto normale. Ok. E lavora anche venerdì sera. Se tuoi. E allora, Giulio, recuperi 10 a tutte le locazioni e un punto fatica. Arci uguale e catta uguale. E allora con il fatto che faccio riposo totale me lo recupero un po' psico. Cos'è? Vi vedete sabato a pranzo? Cioè, che adesso vado a letto giovedì alle 4 di notte. Sì. E io dormo tutto quello che serve. Ok, e vi vedete sabato a pranzo. Ci vediamo quindi anche tutto venerdì e sì, sabato. Quindi io posso recuperare un punto fatica? No. No, vediamoci domenica mattina, Sceo. Ci vediamo sabato a pranzo. Domenica mattina. Sì, così ci prendiamo anche il sabato di riposo intero, non spezziamo la giornata. Se vi vedete sabato a pranzo? No, se ci vediamo. Voi non avete. Cioè non avete capito quello che ho detto io, a cui avevate in teoria detto di sì. Stiamo insieme. La posso passare. Ci vediamo. Ma lui lavora e tu devi lavorare. Ho capito, stiamo di base tutti nella stessa casa. Poi quando uno va a lavorare esce ma poi rientra lì. Beh, allora possiamo fare tipo da me in Altana come base. Non hai capito? Dove non ci sono altre persone. Lui proponeva, era perfetto. Stiamo tutti là in quell'appartamento. Ma così non c'è internet. Oltre, o c'è ce l'abbiamo col cellulare. Abbiamo tutti il cellulare in tasca con internet. E semplicemente il mio discorso era, non stiamo in casa tua perché c'è tua mamma. Beh, andiamo a caldire, ci però non che io poi torno a casa mia a dormire. Ma per me potete stare anche venire anche da me adesso. O il sabato a pranzo, o la domenica a pranzo. Va bene. Tanto dicevo, se non ci ammazzano il primo giorno. Allora, ditemi che giorno vi vedete. Tutti. Ma che non capite? Cioè, che giorno fate il punto della situazione? Beh, io pensavo sabato primo pomeriggio, dopo pranzo, insomma, una roba così, vedere com'era. Cioè, far passare il venerdì completo. Per chi lavora e per chi no. Io, vabbè, lavoro venerdì su sabato, la sabato mattina torno da loro, dormo, quando mi sveglio, pranziamo e ne parliamo. Per me potete venire anche da me. Sabato. Ritagli, se anche tu vai là, finito di lavorare, perché non capisci l'italiano? Da dove? Cioè lui dice che tutti, invece che vivere a casa tua, sì, vivi lì per questi due giorni. Quindi vai a lavorare, ma però poi facci dove? A casa di Capo. A casa di Capo. Calderino. Io regalo andare a Imo, cazzo si dice? No, va bene, io no, mi dispiace. Va bene, e tu arriva quando cazzo ti pare, e noi stiamo a casa. Ok, va bene. Quando sabato vi vedete lavoro a Bologna fare... è scomodo, però... Quando vi vedete a fare il punto adesso? Sabato a pranzo. Sabato a pranzo. Quindi sabato a pranzo, abbiamo... io scrivo, se volete potete venire da me, se invece volete andare a sto Calderino, andiamo a sto Calderino. Raggiungici a Calderino. Allora, è sabato 17, a pranzo. Ti ricordi che poco fa ti lamentavi del bruciare carne. E... voi tre recuperate altri due punti fatica e un punto psiche. E Sceo recuperi niente, Vez recuperi un punto. Due prendo punti fatica io. Chi mi ha rubato la gomma? Però voglio i miei 40 euro in tasca della notte. E anche 10 punti di locazione. Sì, sì, sì. Anche 10 punti in una locazione. E 10 punti, no, in tutte le locazioni. Sì, è bene, nel senso, a me ne mancava uno. Ok. Ok, è il 17, vedete tutti in questa casa. Arriva anche Lex, immagino. Sì, sì. L'idea è, non so... C'è anche Yak? Beh, se lui ha voluto rimanere okay con noi... Sì, sì, sì. Sì, poi sì, magari ci sta che uno fa un salto a casa per no, no, vestiti così, però l'idea era la base quella così. Quanto è, quant'è calderino in distanza, scusa? Sono, ci metti da qui, boh, 20-25 minuti in macchina. Ok, e vai. La macchina, vabbè. Io porto il fucile d'assalto, ovviamente. C'è la caccia bagagliaia, vabbè. Come vi sentite, ragazzi? Io propongo di partire stasera, voi come state? Io sono un po' stanco. Va bene, questa è la meglio rispetto a prima. Meglio rispetto a prima. Io chiudo la porta e me ne vado. No, propongo di partire stasera, così non abbiamo problemi di sorta, eventuali lavori, dobbiamo dichiarare. Spero di non essere più sotto shock. 25 minuti. Ma raga, non abbiamo informazioni su... E io ho detto in questi due giorni, intanto chi è a casa cerca su internet le mappe. Qualcuno di voi ha cercato, perché io proprio non so farlo. Cattabi internet. Non saprei proprio come farlo io, mi spiace. Dipende, se me l'avete detto prima io posso averle cercate. E ho detto, vabbè, io ho proposto loro perché non hanno in casa da fare il giorno. Ma se si usa un sabato a pranzo io... Vabbè, adesso non è che io non ho un cazzo a fare, cioè. Piano. Infatti ho proposto loro due. Io devo fare riposo totale e non ho... Non è che ho 18.000 euro per un bel pascasso. Dipende, la mattina potevo cercare su internet. Non lo so, al lavoro puoi cercare. Al lavoro? Sì. Allora... Cosa c'è? Ah, uso il mio computer, usavo. Sono l'unico che lavora. No, è un lavoro... Ah, io usavo il mio computer. È un lavoro diverso, anch'io potrei cercare su internet al lavoro. Se qualcuno mi sta cercando, non lo faccio mai, e lo sa. Ah, lavoro io sul mio computer. Oltre a caricare gli episodi di Unstuck. Cioè, avevo il computer. Ma anch'io cazzeggio col cellulare, anch'io ho il computer davanti, è ovvio. E... Non lo so, si dice... Ah, scusate, voglio venire i clienti in un chat via WhatsApp. Dai, ditemi, chi cerca? Chi cerca cosa? Cerco io. Cosa devo cercare? Ma vabbè, ma tutti, cioè, ognuno per conto proprio. Con riposo totale, sala non si intende cosa stare 24 su 24 a letto. E invece sì. Ah sì? No, di non fare cose impegnative. Vai, dimmi. Semplicemente... Cioè, stare al computer non è impegnativo. Più cose possibili. Guardo la zona con Google Maps, guardo gli edifici e non un ho B internet, però faccio quello che farebbe una persona normale con internet. Ok. Niente. In quel posto lì... Devo tirare? Non tirare. Vabbè. Ora, Google Maps mette le coordinate e se fai tirare un dado è clamoroso. Lo dico, se c'è qualche cosa... Tira un dado! Volevo 4. 4. Difficoltà di 2. Se fai la difficoltà 5 è clamoroso. Cioè, aspetta, stai parlando con uno che ha insegnato a Yak a usare il GPS di un cellulare. Allora è stato di 8. Sì, è vero, avrebbe fatto con più facilità insegnato una scimmia a contare... Allora, in quel posto lì, perché magari, no, non stavo. Cioè nelle quelle esatte coordinate che ha mandato Yak, vedi solo bosco. Ok. Nient'altro. Probabilmente non è... No, no, è probabile che non sia registrato su Google Maps. Guardo la strada più vicina, che ci posso andare con l'omino e vedere, per vedere se c'è tipo una strada che va... C'è una stradina e arriva in un pezzo in cui non c'è niente su Google Maps. Però tipo dall'alto, io cioè, se metto... Quando tu ingrandisci... Se metto alert... Non vedi niente. Metto l'alert, vedo la cosa più vicina che mi sembra una casa o qualcosa, c'è cioè qualcosa. Però. Sì, però è abbastanza lontana dalla posizione. Secondo me invece è tipo oscurato. Sono sottoterra semplicemente. Beh, oppure è oscurato dal programma. Però ma se è sottoterra forse non sarebbe riuscito a farci l'edificio. No. O è sottoterra o come dice lui semplicemente hanno modificato le posizioni. Sì, se riescono a mandare scelo a lavoro anche se non esiste scelo. Però è riuscito a mandarci la posizione. Sì. Quindi se è sottoterra forse facciamo fatica. Vero. Quindi è più probabile secondo me la sua ipotesi. Ma è tanto tipo... basta andare a vedere. Ma raga, non abbiamo altri mezzi per scoprire qualcosa su. Non lo so, io chiedo a lui... Yeah, questa struttura che tu hai visto era esterna o era interna? No, io ero in una prigione. No, quella in cui sei andato dopo al fine. Io devo tornare ai posti che ho già visto. Quanti piani avere? Quindi sei andato in prigione? Merda, catta, ti ho detto prigione, ero in una cella. Porca puttana. Ma porca. Presente quelle prigioni. Voi petrolieri, voi per mettere fuori dalle sbarre, cosa vedevi? Altre non prigioni. C'era uno sbarre, c'era una porta di ferro. Ah, io chiedo a lui se può fare arriva una un'altra volta col magazzino, cioè quello che in qualche modo ha un satellite di tipo reale. Per vedere se le forme altre cellule siano state modificate. Sono la finestra? No, finestra, tipo lo sportello. Dal blocco, dici no, io dico, ma c'è una finestra. Perché se loro hanno modificato le foto di Google Earth in modo da non far vedere il palazzo. Yak, il pavimento e il muro, ti ricordi se era leggermente tipo non umido, un po' umido come se potesse essere sì. Interrato? Sì. Potrebbe essere. Però non sono un esperto di questa cosa. Beh, è che ti ho chiesto di venire. E ascolta. E allora? Beh, potrebbe essere che la prigione magari sia interrata, ma comunque ci sia un pezzo di struttura fuori. Ma raga, non avete, cioè nessuno di voi ha, voi che avete quel cazzo di cose? Non lo so, io provo a collegarmi in qualche modo a un satellite. Raga, comunque c'è, cioè, probabile che non troviamo su Google Art tipo Tana del professore. Vabbè, comunque sarà più vicino, ho visto qual è, no? Quant'è come sì, distanza sì. Se noi mettiamo il punto GPIAC da Bologna? E a quant'era più o meno? O da Calderino. A quant'era più o meno? Un'oretta. No, la strada più vicina dal punto che diceva IAC, quant'era più o meno? Ah, no, non tanto lontano. Con la scaletta di Google Maps posso vedere più o meno quant'è. Sì, sarà stato a un paio di 100 metri. Ah, vicino. Se posso faccio una ricerca. Cioè, comunque abbiamo individuato quantomeno la frazione, il paesino. E comunque io vedo la stradina che è a 100-200 metri da sto posto. Io faccio una ricerca su eventuali edifici abbandonati, tipo vecchi carceri, se c'è una cosa del genere. Riguardo a quella zona. Chiedo catta? Non mi sento mai sentire... Se ci sono strutture... No, il padre di Ludo. Che è un pilota di elicottero. Bravo. No, non possiamo chiedergli di... Perché non chiediamo a Bignia? Esatto. Ecco, proprio l'ultima persona che diventerà Romano 7. Nessuno di noi ha un drone. Zuji! Zuji! Vedi una foto. Forse ce l'ha lì. Nessuno di noi ha un drone. Forse ce l'ha lì. Forse ce l'ha lì. Forse tagli tu. Forse lì aveva anche altre cose. Forse lì aveva altre cose. Siamo già in diritto di 20.000 euro. Passeresti l'acqua, per favore. Perché se andassimo questo mi chiede chi è? Tu. No. Potremmo andare in zona, tipo nel paese più vicino, alloggiare lì e poi studiare un modo per rostrare la zona. Cioè, intanto io propongo in ogni caso, massimo in serata, di andare in zona. Cioè prendere la macchina e andare. Raga, mi sono anche tanto è un viaggio di un'ora, ma che vada, andiamo lì, cerchiamo un po' della zona. Cioè, il problema, cioè, ovviamente non abbiamo molte alternative, quindi ci sta. Io direi che è anche vero che, raga, ricordiamoci che questo è quello che noi faremmo se fosse un gioco di ruolo. Però è anche vero che probabilmente lì ci saranno tipo delle guardie, eccetera, che sì, ci non chiameranno. Non è che noi andiamo lì con la macchina urlando e sparando dalle finestre. No, intanto andiamo nel paese vicino. Però già probabilmente della gente che anche lì farà delle passeggiate così in Polleggio ci sarà, noi andiamo a cercare funghi lì vicino e vediamo da lontano la struttura, non è che andiamo dentro, cioè ci guardiamo, dopo pianifichiamo, dopo una cioè, volta se a 100-200 metri c'è qualcosa lì dalla stradina secondo me si dovrebbe vedere, esatto, a meno che non sia effettivamente sotto terra. Ma se andiamo anche dei tuoi cloni? Il problema è, no, sì, però i miei cloni non è che adesso durano un po' di più per la metà, ma io non lo so. Però durano un po' di più, però non tanto comunque. Il problema è questo, cioè se mettiamo che nella stradina si vede, probabilmente c'è anche già le guardie dalla stradina, capito? Sì, però magari anche queste guardie qua non possono ammazzare chiunque passi. E una macchina telecomandata con sopra un cellulare che figlio. Sarebbe bello avere dell'attrezzatura, ma i nostri combattimenti di solito sono pistole contro mani, quindi... E noi siamo telecomandata, noi siamo le mani. Tranne adesso. E cellulari. Ma raga, se parlate col tipo che vi ha venduto la roba? Non abbiamo la zecca in casa, Non abbiamo la zecca in casa, però quella potrebbe essere una buona idea. Chiamiamo Liva. Drin, drin. Pronto? Pronto, signore? Sì, ma... Me l'ho spostato a me. Sento mare quando è bello. Mica, ma Liva è sempre disponibile, è un grande. Sì, è un grande. Sono grandissimo. Ciao, Liva. Ci stiamo, siamo ripresi da... Chi è? Siamo il gruppo... Francesco. Ah, ciao. Come va? Mettiamo voce. La gamba bene. Adesso è l'unica cosa che va bene, in realtà, però... No, ci stavamo pensando. Tu tratti per caso aggeggi da spionaggio, tipo droni telecomandati, sì, che volano? Sì, ditemi cosa vi serve e ve lo faccio. È un Boeing B-52. Avete i soldi? No, servirebbe qualcosa che possa esplorare, anche magari svolacchiando. Sì. E non tanto vistoso. Bisogna esplorare una zona. È probabile che stiamo cercando una struttura sotterranea. Sotterranea, quindi deve vedere attraverso... No. Stiamo cercando una struttura sotterranea. Cioè abbiamo un'ipotesi che le prigioni siano sottoterra. Sì. Magari con un, un sensore infrarossi potrebbe avercelo. Sopra. Sì. Cioè gli spieghiamo, abbiamo fatto fare questo giochino al nostro amico per mandarci a posizione. Guardando dal satellite si vede. Vediamo il tuo piano. Cazzo mai! Qualcuno ci dovrebbe fidare. No, hai capito com'è la vita, Leo, neanche il gioco, la vita. No, vabbè, nel senso. Magari è una matita. Guardi, io le posso dare quello che vuole, però posso anche darle una matita per gli stessi 30.000 euro. Prendo la matita. No! E gliene do 40.000. No! Bene, no. Il discorso è che magari anche il drone è mandato nel punto che dice Yak, vediamo che fuori non c'è niente, allora capiamo che è sottoterra. Faccia bene così. Allora, se abbiamo invece anche il metal detector per trovare. Trovi una moneta. No, il discorso così è. Trovi anche dove. Accorciamo il dito. Vabbè, scusi, signor Riva, un drone quanto costerebbe? Un drone, dipende dal drone. Il più sega? Più sega, 50 euro tipo di cotterio. No, vabbè, no, serve uno che porti una telecamera. 400 euro con telecamera dentro. E se mettendoci un sensore infrarossi? Il sensore infrarossi è costoso. Sì, ma ragazzi, il sensore infrarossi per una precisione. Voglio sapere quanto costa, stai calmo. Sui 900. Ok. No, era per l'utilità. Tutto compreso o in più ai 400? Tutto compreso. Vedi, per esempio, che persone ci sono, se ci sono delle persone dentro. Non sarà altro a 18.000 km della vita, sarà un limite, cioè. Però funziona bene. No, però se lo mandi sopra di 10 metri. Chiedi quali sono i. Quant'è? A che distanza funziona il raggio infrarossi di quel drone? Infrarossi funziona. Attenzione al piano sole. Allora, intanto dovete fare le analisi, le dovrete fare solo di notte, uh-huh. Di giorno sarebbe un casino, se no. Uh-huh. E boh, a meno che non. Gli infrarossi non passano mica il piombo. No. Quindi basta che un ingegnere con la terza media abbia fatto questa prigione. Ma anche se lo stato di terra è abbastanza alto. Infatti, l'infrarosso non passa da. Però se tipo c'è una guardia dentro. Se nel c'è bosco, una guardia la sopra, la vedete, sì. So che è inutile perché magari è bello farsi sparare. No, è che la guardia la vedi anche di giorno con una telecamera normalissima che costa 400 euro. Ma lei vedete? Non è che tu li vai qua con la telecamera comunque. Se la guardi lì nella foresta tu li vai a prendere da lontano. Cioè, diciamo che se state cercando qualcosa di interrato ed è abbastanza grande, e forse riuscite a vedere una traccia di calore anche se è sottoterra. Ok. Non so se mi sono spiegato. Qui avrà un ingresso. Sì. No, ma a parte l'ingresso, se si estende nel sottosuolo. E cosa serve per vedere? Sì, un alone di calore comunque. No, va bene il vaso di visore. Okay. E nel caso dovessimo incontrare gente che indossa giubbotti antiproiettili. Oh, se potete spendere di più invece posso farvi anche qualcosa più raffinato. Tipo? Tipo già un 3.000 euro viene fuori qualcosa di abbastanza buono. Ecco, no. Buono, aggiungiamo. Ah, con l'infrarossi della definizione migliore. Sì. No, beh, vabbè, in realtà già questo andrebbe bene. Però mi chiedevo, forse non è il caso di chiedere a lui dei giubbotti antiproiettili. No, a noi serve qualcosa nel caso incontrassimo gente con giubbotti antiproiettili. Però sparate alle teste. Sì, no. No, vabbè, quello no, ma grazie. Il problema è ti ricordate che noi sappiamo come sono vestite le guardie? Noi se prendessimo dei giubbotti antiproiettili potremmo assomigliarci. La cosa che potete fare per i giubbotti antiproiettili è comprare dei proiettili perforanti. Ce li hai? Sono illegali. Quindi ce li hai. Se volete, sì. Sono già illegali, quindi. Ce li hai occhio dietro! Ferma, non ti muove. Urca, grande catta. Grande catta, riflessi. Posso muovere? Voglio un D8 qua. Non tirare giù il mio iPad, perché catta, un punto esperienza. Scrivi riflessi, scrivi un. Scrivi abilità, scrivi tipo. Tirare un po', Giulio? due punti abilità su osservare. Abbiamo osservato. Adesso ci penso io. Tutti i nostri telespettatori da una fine orribile. Grande cazzo. Catta, più punti esperienza. Sarebbe stato bello vederlo dalla diretta. Che... sì, esatto. Avrei anche... E quindi avete presente, avete presente quando Yak era lì che per una goccina è impazzito? Pezzo, dava fuoco a tutti. Emanuele Marchesini manda i suoi saluti. Adesso, no, sistemo io, non ti preoccupare. Adesso mi alzo con calma. Che dici, lo faccio cadere. Adesso lo sistemo. La caduta col ritardo si vedeva. Teniamoci. Adesso lo faccio. Adesso quasi sistemo. Adesso lo sistemo. Abbiamo creato un effetto stallo qua dentro. Se da aprire su. Oh, ci dai delle vasche, cos'è? Mi stai dando della vacca? Sì. Ok. Dopo quello che abbiamo mangiato. Proviamo per disegnare. Fai vedere? Le spine moderne. Oppure puoi inclinartelo. No, ragazzi, io sono apposta, non so. Funziona bene. Puoi scegliere la punta. Questa è la matita? Sì. Tipo cosa vuoi disegnare? Come ti fa? Un pene? Perché un pene? Perché no? Anche più spingi, se più spingi lo fa. Se vuoi che puoi cambiare, vuoi... Si fa così? Puoi anche fare così. Approfitto per sistemare il video. Ma posso chiederti per cosa lui? Lui ha fatto tipo il logo, è... No, in serio, per cazzeggiare o... È il Pro 4. Se vuoi arci, dove sei? Se vuoi punte più spesse. Tipo 2H, HB. Ma lo usi davvero questa cosa? Sì. Figata. Puoi anche mettere un coso. Sì. Ciao Giulio. Ciao Giulio. Vabbè, io tanto non li seguo. Ti confermo che caso. Io ti confermo che non ci siamo. Puoi tenerlo quanto vuoi. Mi dispiace. Questo puoi anche chiudere, spostare, fare una cazzo di paura. Porca. Non ho poco il clear. Sta nuova, io quando vedo una persona che esce da un locale dico grazie, è abitudine. Invece per la tavolozza che ti ha fatto. Ok, va bene. È più forte di me. Manca un pennello, acqua. E se si vuole grazie di colla. E in automatico vedo qualcuno che esce, grazie, buona giornata. Io perché li ho ringraziati, ma poi ci vedo grazie anche. Della loro presenza. Sì. Penna dov'è? Sì, questo sono. Ok. La gag continua. Esatto. Disegnati scherzi, che devo fare? Dove ti parla? Bravo, stai concentrato sul pezzo. Ancora i Pokémon. Puoi anche perché hai visto un Pokémon da su e ha notato che stava per cadere. Cioè comunque davvero. Ottimo. Ok, comunque dicevamo. Rischio. Ok, comincia la no. E per quello dicevo se vuoi fare il logo. E puoi anche cambiare punto. Bene, raga. Adesso per fortuna sarà meno casino con Giulio che. Cioè... Allora, dicevo. Benvenuti alla sessione. Allora, dicevo, se volete vi posso fare un... Quindi decidete voi il drone, ditemi io voi. Io sui 900. Per i proiettili perforanti, ditemi quanti ve ne servono e di che calibro. Io non sarei per i proiettili perforanti, sinceramente. Cosa vuol dire? Personalmente... Perché tanto lui riesce a sparare la testa. Ah, e cioè, anzi, devo dire che nell'ultima missione non c'è riuscito. Ma non lo so, cioè nel senso... boh, quanto costerebbero? Che calibro questo? Vabbè, aspetta, ma funzionerebbe? Vabbè, gli faccio vedere, gli dico le nostre pistole. Gli dico anche il mio fucile. Non capisco un cazzo di armi, però ho capito. Comunque, non è che abbia sto gran budget. Vabbè, se ne parliamo per quello si può sistemare. Vi faccio una decina di euro a proiettili. E ok, ripeto la domanda: accetti gambe? No. Ok, i proiettili sono un po' costosi. Sinceramente sì, non è roba che trovi al tabaccaio. Comunque vabbè, tanto mi segue le cose. Vabbè, possiamo richiamarti per confermarti il numero di proiettili tra un po'. Sì. Posso... Ditemi per il drone perché ve lo devo fare. Quindi... Il drone io confermerei con... ci mette a farlo? 10 minuti. 3-4 ore. Ascolta, sì, volevo chiederti anche. Va bene. Comunque si rega, da parte tutto, visto che in questo gioco abbiamo le metagame, abbiamo i soldi. Cioè, adesso sentiamo quanto fanno il metagame, poi ci sottolinei anche che stai. No, è per dire che dobbiamo trovare una fonte economica che siano. Sì, si chiama lavoro per avere una vita reale. No, dico una fonte economica per comprare proiettili, sì, cose che da gioco sono. Ma in realtà credo che la cosa più. Va bene. La cosa migliore e sia i giubbotti antiproiettili, tu ne vendi. Tipo, ti do una mano. Quanto costa? Potremmo cominciare a. Che ho perso il mio. Che è lì dentro. Cioè, potremmo vendere, tra virgolette, i nostri servizi. Sì. Però che tipo di servizi? Tipo, posso fare. Cioè, anche per questo qua, gli facciamo un favore e cambio ci fai il drone. Cioè, robe così. Giubbotto antiproiettile, 300 euro. All'uno. Okay. Sono tantini. Eh no, voglio sapere poi sì, i prezzi. Sì, bravo, bene. Invece un visore proprio a infrarossi. Cioè, un visore. Dipende dalla qualità. La minore. Il più sega. Ti da questi c'hai la vista. No, facciamo 500-600 euro. Minchia. Ok. E invece un fumogeno? Ma non potevi fare l'ambientazione in America? Che là le armi le hanno come le camere. È vero, però. O se no vorrei sapere un fumogeno e un gas. Vabbè, un fumogeno posso comprarlo anche alla casa. Un fumogeno, esatto. Voglio un gas lacrimogeno invece. E una maschera invece. Sì, io vi faccio cose particolari, non faccio robe. Cioè, se non sono vabbè, se, basta, no, salla anche solo se cerco su internet robe così, non so. Allora. Se lo usa lui, io posso sapere. Cioè, giusto per sapere i prezzi, per sapere come. Cos'è che vuoi? Voglio sapere o un gas lacrimogeno e una maschera. Allora, gas lacrimogeno dai 70 ai 100 euro. E poi che altro? Una maschera. Maschera antigas. Maschera antigas. Boh, non c'è. Maschera antigas. Dipende da quanto è grande e piccola, cioè la qualità del coso. Che sostenga il gas lacrimogeno. Ma direi che te la puoi cavare con un paio di 100 euro. 200 euro? La maschera? Sì. Ciccio no. Va bene. Dato che sei un uomo di mondo. Allora, se tu dipende dalla maschera, dove sei saltare una anche da 11 euro, quindi parliamone. Sì, ma sono quelle che ho io in laboratorio quelle. Maschera? Boh, questa roba. Boh, in realtà. Deve funzionare, no. 250. Se lui c'è una mobile, sì, la c'è di tutto. Dato che sei un uomo di mondo, se tu dovessi saltare una base sotterranea, che cosa prenderesti? Rega, ci vediamo. Beh, intanto l'ideale sarebbe avere le planimetrie del posto, gli allarmi, e quante guardie, i turni delle guardie, e dov'è quello che dovete andare a fare, com'è custodito. E quindi comunque un sopralluogo, vedete, quello per cui ci serve il drone. Ok. E quel drone che ha fatto lei, secondo me, tutto funziona. Assieme alla prossima. Funzionare funziona, però... Gli alli il weekend della prossima settimana. No, questo non lo dico a lui. Dico perché? Scusa, è sabato a pranzo, partiamo adesso e leggiamo stasera. In due ore siamo là. Ma come vi pare? Sì. Sì, ma se andiamo a avere, se vogliamo pianificare meglio la cosa... La scelta è questa. Ma infatti la mia idea è andare là e pianificare da là. Allora prendiamoci le cose più. Dai, come vuoi? Fammi gli hack che mangi tagliare. No, possiamo. Se lo noleggiassimo soltanto il drone o il visore o quello che. E poi lo usiamo. Raga, non sono un'agenzia noleggi, cioè ditemi cosa avete bisogno e ve lo faccio su misura. Non è che io noleggio. Vabbè, avete una cosa invece che mi interessava sapere è, signor Liva, e visto che noi purtroppo per diciamo che in termini di soldi possiamo soddisfare non tutte le sue richieste. Però, insomma, possiamo offrire dei servizi come lei ha visto, ad esempio la consegna magari non è una cosa banale, però possiamo provare a offrire qualcosa di un po' più specifico in cambio magari di qualche equipaggiamento. Insomma, potremmo cominciare ad intraprendere un rapporto professionale. Sì, però io fonte sega. A livello di Dungeons and Dragons sarei d'accordo, a livello di mio, cioè se devo andargli a vendere la droga è già fatto di no. Gliel'ho portata e sì, non mi è piaciuto e l'ho fatto per sceo. Qua lo facciamo per noi. Siamo come. No, ok. No, nel senso, considera. Cioè, appunto, ti sei risposto. Nel senso. Sei tu che piagnucolavi dicendo che rischiamo di essere ammazzati il giorno dopo, eh? Quindi se lo interpreti così il discorso, vuol dire che noi rischiamo di morire, di conseguenza siamo anche disposti a consegnare un'altra scatola di merda, cioè, insomma. No, quello vabbè, ok, però appunto, nel senso, se lui vuole che andiamo tipo a ammazzare della gente, cioè, no, sentiamo, non credo, mi sembra un assassino, perlomeno, per dire, se deve, se lui sembra uno che faccia affari, lo sapete, lui... che vi sento, vero? Infatti noi dobbiamo essere assolutamente trasparenti con lei. No, dico, cioè, immagino che lei faccia solamente degli affari, quindi sarebbero missioni di magari consegna sicuramente di cose illegali. Sì, ma in questo momento non ho bisogno. Vabbè, ragazzi, allora cosa facciamo? Prendiamo il drone? Una cosa, se le conosce per caso un certo Void? Tira sul sociale. No, tiri lei sul sociale, signor Liva. Ah, il discorso è con il drone. Ah, mai sentito nominare. Mai senza nominare. Ci ha parlato nella testa. Forse Void non le dice niente. Io ma... tocco casa. Io tocco casa. Ma poi sta. Di farti star zitto. Ma... creatore di mondi. Cos'è il creatore di mondi? Void. Questo qua ha fatto così i viaggi. Vabbè, raga. Boh, forse ho capito di chi parlate, non lo so, non ho mai conosciuto di questo. Guardi, signor Riva, la richiamiamo tra pochi minuti, che scegliamo un attimo se fare il drone. No, il drone è stato il discorso Vez è che 900 euro sono tipo 200 alla testa. Sì, sì, non signor Riva, la richiamiamo però tra qualche poi andiamo minuto in cavalleria. Raga, io non ho soldi per pagare il vostro drone. Vabbè, per non farvi sentire tutta la conversazione. Sì, sì, sì, no. Il drone io lo prenderei già. No, appunto, signor Diva, la richiamiamo tra un paio di minuti. Quindi non faccio niente. Per il momento no, grazie. Ok, mille. Grazie. Cioè, ora decidiamo. Dobbiamo decidere così. Allora, facciamo per 900 è già, cioè, per me è già deciso, è ovvio. E sì, il discorso è che sono anche importanti i giubbadetti proiettili. Perché andare a combattere con delle guardie. Budget complessivo, ognuno di noi mette dentro 200 euro e vediamo cosa viene fuori. 1000. Io non ho 200 euro. Ce li hai a livello di gioco, ce li hai. No, raga, io ho 200 euro. Vedi come è vestito bene. Sono uscito da una prigione, Vez, ma che cazzo dici? Cioè, non è che se tu hai tutti questi soldi ci puoi tornare. No, è meglio di no, perché i miei li metto in pericolo, Vez. Beh, ma in un momento in cui non sono a casa. E cosa faccio rubo i soldi? Sono i tuoi soldi. Non ho soldi, non ho 200 euro da spendere in sociale per in elicotteri. Sociale per fargli capire. La difficoltà è alta, eh. Lo dico. Sì, che... Uno. Vabbè, Vezzino, allora sono inutile, vado via. No, e vabbè. No, con Vez, con 200 euro a testa facciamo 1000 per prendiamo il drone. Io non ce li ho. Perché dobbiamo mettere 200 euro? Il discorso mio è... È perché c'è lui, eh! Il discorso è, appunto, per rimanere sempre in tema noi, e noi andremmo davvero ad assediare questa prigione senza no, giubbotti di proiettile? Ah, no, effetti... Cioè, siamo consapevoli del fatto che se per sbaglio c'è ma una guardia... perché volete spararvi? Cioè, io ho il fucile d'assalto, metti anche caso che se entrassimo guardie, senza farci vedere e rubassimo... grande. Consideriamo come il posto? Perché se serve farlo sopralluogo. Ma come mi pare, se no andiamo lì alla cazzo, no, come facciamo che... il solito e speriamo ma di non avere un modo... negoziata bene prima. Non c'è un modo per avere le planimetrie e poi anche tipo i sistemi dall'arma. Detto, prova a usare Obinternet, non mi caga. Sì, planimetrie di essere... Sì, c'è, in realtà. Tu dovresti usare il tuo portale per entrare nella... Ma io non capisco niente di queste cose. Esatto. Tu dovresti usare il tuo portale per accedere lì, visto che sei l'unico che può entrare dentro. No, un'idea geniale. Aspetta. Possiamo provare a contattare Void e riproviamoci a contattare Void. Che magari... è geniale fare Void, Void, Void, no, Void. No. Provare a contattare Void e poi cercare un aiuto per questa cosa qua. Magari ma scusate, altri... non avete i contatti da usare? Ossalla. Basta. Me coglione. No, nel senso, di solito per queste cose si usano i contatti. Sì, perché dei soldi ai miei. I miei contatti sono Digno, Yak, e non sono riuscito a farli sgualcire neanche un euro. Io ho Ambra e Ema, però al terzo non saprei neanche. Vuoi usare il tuo contatto per Yak? E Fede, grandi conoscenze delle planimetrie. No, no lo dico perché, lo dico perché a livello di gioco di solito per fare queste cose si Lo so, ma a livello tecnico... Vabbè, comunque segnati il tuo contatto come usato e Yak dice, vabbè, ok, ti darò i soldi. Cosa vuol dire? Lo devo togliere? No, se ti metti una X e dopo devi fare un favore per riavere il contatto attivo. Ah, così. No, posso provare a usare il babbo degli amici per tipo... Hai già usato il babbo degli amici? Quando? Tutti. Magari hai chiesto informazioni? No, all'inizio. Ah, sì. Lo certo. Chiederò... Che poi però tutti sono scordati. E quindi vai a pesare in culo. Delle... del casetto. Dei due arrestati. Mm-hmm. Vero. No, però puoi provare a chiamarlo, sicuramente no. No, volevo dire una cosa a Yak. Yak, mentre tu vai nel portale, cioè c'è un momento prima che sbuchi dall'altra parte in cui sei in una specie di stadio? No. Cioè tu apri una porta sì. E vai dall'altra parte. Però quando creo invece la dimensione, c'è un'altra dimensione. Quindi puoi metterci la testa dentro. Posso metterci anch'io? Sì. Me la puoi fare un attimo, me la puoi fare un attimo. No, metto solo la testa. Che cosa vorresti vedere? No, voglio solo provare a fare una cosa. Se lo vedi a portarti? No. Voglio semplicemente vedere se in questa dimensione magari non propriamente nostra, cioè perché non è la nostra dimensione reale, se provo da lì a chiamare Void, magari lui ha modo di percepirla diversamente rispetto a chi solo parlo in giro per l'aria, capito? Siccome lui ci ha detto chiudete gli occhi e poi ci ha fatto vedere altre cose. Per quanto assurda, tanto vale. Che interno nuoce se Yak mi apre un attimo il fornetto, il microonde. Devi convincere Yak a fare una cosa che... No, ma gli dico Yak apri un attimo che devo solo fare una prova. Cioè, ma che vada, fallisce. Ok. Fa un portale, grande tipo così. Metti dentro... Scendo nel nesco. Una piccola finestrella per quelli sì. Del podcast che non vedono i tuoi gesti. Metti la testa più o meno dentro. Chiudere gli occhi. E quello che vedi dentro è tipo uno spazio. Come se fosse tipo tutto bianco. Fino. Non vedi neanche la profondità, non è tanto grande. Tipo come questo tavolo, come dimensione. E allora provo. Se parlo, loro mi sentono. Se parli, loro ti sentono. No. Ok, dico coglioni. Ho avuto un'idea geniale. Signor Void, se mi sente, avremo un urgente bisogno d'aiuto. Lasci un messaggio dopo. No, ok. E poi signor Void, se mi sente, avremo un urgente bisogno d'aiuto. Va bene. E dopodiché? Vabbè, aspetta un attimo ovviamente. Ok, quindi... tira su sociale. Non senti niente. Uno? Sei fatto. Ok. E dopo un po' senti Yak da fuori che ti. Tipo così. Mm-hmm. Tiri fuori la testa. Tiri fuori la testa. Un attimo così con la mano. più insistente. Dico aspetta Yak. E Archie si sta per chiudere. Ok, vedi che Yak è molto affaticato, lo chiude e fa. Ma quindi Archie hai fatto quello che devi fare? Sì, ho provato a chiedere aiuto al nostro amico, sperando che potesse raggiungermi, ma momentaneamente non mi ha risposto. Ok. E poi... Che facciamo? Volevo sentire la voce. Ok. Dove abiti Yak? Calderino. Ma la casa ha un portone, tipo un condominio. È un condominio che quello cui si può accedere sia da un... Faccelo vedere. Una porta normale. Ok. Senti... Ok, vai. Dov'è il ponte di Rubano? Senti bussare porta. Al garage, se senti bussare al garage si sente in casa. Ponte, sì. Allora senti tu. Apri gatta. Cioè vai a vedere chi è prima. Dal garage. Anzi. Cioè punto sul garage e dico Katta di aprire. Ok, Katta apri. Katta, io sono così sul garage. Sì. Prova ad appoggiare l'orecchio e sentire. 25 aprile. Tu. 25 aprile. Katta, sono col fucile d'assalto sul garage. Apri. No, prima chiedo chi è. Senti, una voce che conosci? Dice, mi avete chiamato voi? Sti cazzo. Faccio Katta, forse posso aver intuito chi è. Prego, apri pure. Il professore. E vedete il professore. Ah, diciamo, direi che è geniale questi apri più in modo da far uscire l'occhio. Sì, così tu puoi morire, ma io non posso sparare a lui, immagini. Vedi. Bravo. Spariamo subito. Quindi apri. Sì. Perché ho un power player di merda anche nel gioco questo qua? Vedete, vedete. Anche nella verità. Lui vive power player. Vedete, vedete un tizio con vestito con un paio di pantaloni neri e una felpa nera con cappuccio, cappuccio sopra, da cui vedete uscire capelli lunghi, barba lunga, un tizio abbastanza alto e magro. Barba di colore nero, nero, tutto nero. E quando apre dico: "È il signor Void?" Sì. La faccio cazzo. Oh, forse qualcuno ha parlato con la persona giusta nel fornelletto di Jack. Nel fornello. Cioè, prego, si accorga. Fornelletto. Mette via il fucile. E... sì, piacere, sono Void. Voi siete i tizi. Siamo lo staff. Void staff. Noi siamo. Gli eroi destrutturati. Beh, dovrebbe saperlo chi siamo, visto che ci ha salvati. No, è vero. Siamo gli eroi destrutturati. Sì, ma non so i vostri nomi. Eroi destrutturati. Eroe destrutturato, sì. Questa è nuova. Ma come fai a parlarci? Nel senso, come fai? Come fai? Facevi a sapere. Mi fate entrare almeno? Sì, sì, no, facci come fosse a quello vostro. Ok, togli le scale, si spoglia nudo. No, io grazie di ospitalità. Tanto io richiudo subito. Cioè, ci ha salvato la vita, quindi mi dici dove siamo? Siamo ok, ditemi, avete perché mi avete chiamato? E la non lo fai il disegno, vabbè, dai, dammi quello. Non so cosa disegna, so. Disegna voi. Disegna voi. Sì, ma se disegno mi non posso giocare. Mi sa che cerca la mia faccia. Davvero? Questo? Questo? Devo far vedere il mio culo. No. Sai che dice che se non lo so, non ho provato, però dice se tu fai vedere la foto della mia faccia non funziona. Sì. Dai! Cazzo! Chi vuoi da me? Dicevo, perché mi avete chiamato? Abbiamo bisogno di aiuto. Di aiuto per? Pensavamo di mettere i bastoni tra le ruote, professore. Ah, presente la prigione. Ma noi poi pensi perché pensiamo che lì c'è il professore, per parenti. No, però è dove aveva tenuto gli archi. Ah, voglia liberare tutti, tipo. Perché? Okay. Che fare il più danno possibile. Aiuto. Noi per lui abbiamo preso questo hard disk che conteneva informazioni riguardo a un progetto. E gliel'abbiamo dato per guadagnarci la sua fiducia. Ottima mossa. Purtroppo non è andata bene. È un'ottima cosa. E poi l'avete tradito. Diciamo che non abbiamo avuto modo per guadagnarci la sua fiducia. Esatto, perché ci ha scoperto prima. E voi vorreste ritrovare il progetto Mutate. Basta, basta che lui non ne abbia accesso, non mi interessa averlo. E pensate di poterlo prendere dalla prigione? Sì, è l'unico posto che sappiamo della sua. Semplicemente cancellare tutti i dati che ha. E come vi posso aiutare? Lei conosce questo luogo? Non ci sono mai stato. Beh, intanto possiamo condividere con lei le informazioni dove si trova. Potrebbe esserle utile. Oppure no, No, non ci sono mai stato. Posso cercare informazioni se volete, però voi dovrete comunque trovare qualcosa. Guarda, noi sappiamo che si trova qua, vi faccio vedere la posizione tra Firenze e tra. Va bene. Seconda altra cosa, probabilmente ci sono delle guardie armate che lo sorvegliano. Ok. E noi non siamo equipaggiati probabilmente per affrontarle. L'unica cosa che mi dovete dare è una planimetria e dirmi quante persone ci sono dentro. Okay. Vedi la porta da qui entrato? No, lei ci dà una planimetria. No, voi mi date la planimetria, quante persone ci sono e io vi posso dare i dettagli. Possiamo fare a trovare la planimetria. Per lo strato. Posso mai appoggiare la mano sul coso? No, in realtà dovrebbe esserci un modo per isolare il palmo, ma a quanto pare non funziona. Capisco che è una domanda abbastanza delicata, ma lavori solo? Cioè, cosa già scritto contro il professore? Ho avuto delle collaborazioni. Qual è il motivo per cui ho lavorato anche per... Ma che era vestito il signor Boy? Felpa nera col cappuccio addosso. E la barba della canzone. Qual è il barbalone? Qual è il suo piano? Cosa bianchi fare? O neri? Neri. Però sono neri. Ma niente nuovo, perché l'ho già descritto nell'altra serie. Okay. Che cosa vuol fare? Qual è il suo piano? Non ho un piano, voi avete un piano. No, del professore, dico perché. Perché sta facendo tutto sto casino? Perché ci ha rovinato la vita? Nessuno, soprattutto a questo povero ragazzo. Io so che il professore arruola mutanti per i suoi fini, tra cui c'è anche il progetto Mutate. Però io ho smesso di collaborare con lui tanto tempo fa, quindi non ho più. Conosci un gruppo di eroi che attivamente lo cerca di ostacolare? Vivi? però ci ha dato una mano per un motivo particolare, non mica solo perché sei una persona buona e gentile. Perché siete gli unici adesso che sono opposti al professore. Bravo. E vorremmo continuare a rimanere. Sì, infatti per quello vi dico, se mi date planimetria e numero di persone, posso darvi dettagli. Va bene, cercheremo di fare il meglio. E per contattarti va bene quello strambo metodo che abbiamo. Tu non sai niente di quello strambo metodo, devi stifilare la testa. Non fate così per contattarmi, anche perché è abbastanza inutile. E perché vi tengo comunque tanto più o meno, grazie a questa, vi tengo comunque più o meno sotto controllo. E datemi una data, una scadenza. E mandatemi il materiale. E ci vediamo anche tra una settimana, se volete. Adesso dobbiamo decidere e pianifichiamo tutto. Va bene, sei una nonna dal cielo. Stai provando. Sono molto grato di sapere che non siamo soli. No, non siete soli. Però io lo so che non vi sono dico solo. Già che molta gente è morta percorrendo la vostra strada. Quindi per la legge dei grandi numeri, se gli altri sono morti, lui no. È un ottimo ragionamento. Consigli? Qualche consiglio? Non morite. Ah, ovvio consiglio. Non ho consigli. Cioè tipo sul professore, così sull'organizzazione del professore, eccetera. Io ho conosciuto il professore quando ha cominciato. Ah, l'hai visto? Sì. C'è un po' di scrivere. Beh, anche tu come l'hai visto? Sei cretino, cazzo, gli hai sparato in fronte. L'hai visto... Sì, lo so. 9 anni dopo. Sì. Sei un vecchio, di merda. Più o meno come quello che come hai visto tu. Come quello che ho visto io, grazie. Un po' più giovane. Così? Ma... Sì. Dice proprio quello che hai visto tu? Sì. Quindi un po' più giovane. Sa tutto lui. No, aspetta, okay. Tu sai che lo sai tutto, non fai sapere. No, so tutto, nel senso che ho visto che lui ha visto il professore. Sa quello che io so. E come fai a sapere? Perché l'ha pensato adesso. Ah, tu leggi il nostro pensiero. Anche. Ma il professore anche lui è un Iro. Il professore è un Iro, sì, il professore è un Iro. Anzi, penso, è un numero pensando dentro la testa. Basta, svieni. No, fai una prova di psiche e svieni. Perché? No, e lui cosa mi dice quando gli faccio? No, gli fai così. No, dentro la mente faccio a che numero sto pensando? Penso a che numero sto pensando? Roba come domanda. Cioè, e volendo tu potresti sapere. Quanto hai di psiche? 6. Non saprei. Ah, però hai sentito la domanda, quindi va bene. Ah, pensi a che numero sto pensando? Sì. Allora no, non ha sentito. No, ci stava invece. Però non l'ha sentito. Ma quindi tu potresti volendo sentire i suoi pensieri, come fai con il nostro? Del professore? Non è così facile. A parte che non so neanche dov'è adesso. Puoi sentire il professore non è sega come voi. Esatto, più o meno l'idea è quella. Sì, no. Va bene, okay. Dai, datemi questa scadenza e mandatemi la roba. Okay. E l'assenza gliela può dare solo quello grosso, può fare lui che decide tutto. Ma è adesso impegnato, mi dispiace. Grosso di te. E chi è il vostro amico che si teleporta? Lui, Jacopo. Ah, grazie, penso di essere io. Va bene. In realtà, va un attimo appartato con... In realtà c'è anche un altro nostro amico che abbiamo saputo che si teletrasporta, ma forse adesso non è ancora detto che... Forse però lei lo conosce. Non credo proprio. Luca Lazzarini si chiama. Lui viaggia nel tempo. Viaggia nel tempo. Ma sì, non nello spazio. Tan, tan, tan. Forse. Non lo so, anche nello spazio. Non lo conosco. Anzi, anche nello spazio. E per la sti vergognati. Va bene. Ok, dicevo, si apparta un attimo con Yak, mm-hmm, e cominciano a pallottare. Sei visto benissimo. Quella felpa dell'Everlast è veramente bella. Anche a me piaceva una volta. Va bene, e voi datemi una scadenza quindi? Abbiamo detto che questo weekend proviamo a scoprire qualcosa in più e le facciamo sapere quanto possibile. Poi ok, per la prossima settimana, quando avete le planimetrie e le persone, le date al vostro amico. Mi sono già accordato, gli ho fatto vedere una foto e me le manda lì. Tu conosci l'IVA? Sì, conosco l'IVA. Ci possiamo fidare di lui? Beh, vi state fidando di me? Beh, sì. Non rispondi alla domanda. Cioè, sì, in che senso? Nel senso, non so. Lei ci lavora con lui? A volte sì, se ho bisogno di qualcosa. Lui è, nel senso, è se stesso, voglio dire. Sì, dipende se lo paghi. Okay. Cioè, neutrale puro. Cioè, il professore non è, cioè, non è il nuovo del professore. No, non è un nuovo del professore. Dove è stato? Dove è stato? Dove sono stato tutti, praticamente. Sì, è tipo Heroes che hanno fondato il coso loro. E poi sono divisi. Capisco. E però col professore in buoni rapporti comunque. L'IVA? Boh, non si fida del professore da quello che sono. Ha detto che... No, adesso non è proprio male, però a quanto ho capito comunque insomma lavorano insieme. Immagino che se paghi. Sì, sì. Ok. A presto. E se ne va. Se gli apriamo il garage. Perché se non lo apri no, vabbè. E se ne va. Bene, ditemi la scadenza. Un attimo, mi sono perso io parlando. Volevo chiedergli se c'erano dei modi particolari per contattarlo, se avessimo bisogno di aiuto. Ah no, è già, si è messo d'accordo con Yak. Quindi solo tramite Yak. Se metti caso che noi non siamo con Yak, Yak si trasporta. Riga mi ha dato una foto e mi ha detto che quando avete la roba da dargli gli mando io la roba facendo un portale verso la foto. Figo. E... Sì, ok, però dico per, eventualmente per contattarlo, tipo ovviamente. O perché mi ha detto di mandargli anche tipo un bigliettino con scritto il giorno in cui ci vediamo. È così che lo contattiamo. Sì, con Yak che ci va a dirglielo, o a chiamarlo. Sì. Però dico, metti caso che Yak non sia con noi. È così che lo contattiamo. Prima invece di parlare con i miei compagni ritardati, posso parlare no, con voi? No, fate così e poi ci vediamo tanto entro una settimana, tipo. Quando siete pronti. Cioè lui comunque non dice che si può fare con te. No, però vi tengo d'occhio. O un numero. Non ho telefono. Quindi sarà lui a contattare noi. Sì. Questa piazzata però è molto interessante, perché questo potrebbe permettere, quando andiamo a fare il sopralluogo, di fare le foto del luogo esterno e così Yak può muoversi non solo in quella cella in cui non si vede un cazzo, ma anche dietro. Sì, anche lui ha un limite di punti fatica. No, certo, però. No, ok. No, diciamo che più mappano, esploriamo, più Yak si può muovere. Poi sempre Yak. Cioè, poi, no, basta che Yak vada lì con drone e con gli infrarossi, lo accende e poi torna indietro. Quindi cosa acquistiamo? Un drone? Un drone con cosa? Cosa vogliamo? Solo il dispositivo infrarossi con il drone. Cosa te ne fai? Il visore, tipo? Sì. Il visore 500, è uguale. No, 500. Sempre 500. Magari col drone fate le foto, cercate di vedere se vedete le persone e le contate. Sì. Secondo me sia la cosa migliore che lo volete. Dei vestiti mimetici. Sì, ma non da l'IVA, li comprate. No, sì. Ok. Allora chiamiamo l'IVA per farci il drone normale. Ok, entro quando? A 900. No, ha detto che non lo volete col sensore. Io ho capito che non lo volete fare col drone, facciamo le foto e poi però prendiamo un visore infrarossi da usare. Non possiamo partire più. No, quello, cioè, con quel punto rischia di resterci tanto, no? È uguale, è sempre 500. Cata, se vai tu lì col visore, a quel punto fai anche due foto col cellulare, i discorsi sono... Così puoi fare foto dall'alto. Allora facciamo sul drone. Tu puoi fare, allora, se dobbiamo prendere un visore, prendiamolo sul drone, così fai la foto. Sì. Tanto può funzionare con e senza visore, immagino, il drone. Sì. Se lo volete. Se no, lo facciamo a 400 e... No, no, va bene, facciamo questo investimento. Tanto si spera che... O la parola spacca. Al massimo lo rivendiamo. Mi piace la tavoletta grafica. Mi fa via. Ma ce ne sono tanti per fare. Caldo, io ce n'è gran merda. Ma infatti ce n'è uno in cui ti toglie il palmo. Sì. Cioè, vabbè, che poi si cancella. Però questo è più artistico, tra virgolette. Ok, entro quando ve lo devo fare? Beh, è possibile. Sì, vi do il numero di conto, datemi i soldi quando mi arrivano. Mm-hmm. Va bene, ci scagliamo, 200 a testa. Facciamo una cassa comune. Un po' meno. 900 diviso. Rega, allora vabbè, Vezzino mi ha convinto, dai, vado a prendere. Ma siamo 7. No, con lui 6. Dipende Giulio. 6. Sì. Quando, cioè, quando non c'era Sceo gli prendevamo i soldi. È un ottimo piano, Vez. È davvero un ottimo piano. Grazie Giulio. Posso darti 300 euro invece che 200. Non importa. Uccidete Giulio. Anche perché così. Sarcasmo. Quindi quanto devo dare? 150. Okay. 150. Ok, vi arriva il drone. Immagino che facciate un sopralluogo. Chi di voi lo usa? Bisognerebbe imparare. No. No, è un tutorial. Vaffanculo! Vaffanculo! Come si usa il drone, cazzo. Tira. Sarà sì, un tira hobby internet. Sarà pieno di video su YouTube su come si pilota un drone. Ci fanno pure le gare di. No, effettivamente qua c'è la gioco. Hai ragione, Kat. Segnati un punto abilità su utilizzo. Sì, ma così sulle tutte le abilità del mondo. Però io ho abilità videogiochi, sì. Pilota drone. Hobby drone, scrivi. Hobby drone. Io però. Non c'è. Dov'è la patente? Guide. Guide drone. Guide drone. Guide drone, scrivi. Però che cazzo ci fa con un punto abilità? Mica può usarlo. Scusi. Non è mica un rango. Io hobby videogiochi. Comunque quella roba lì è una cosa tipo utilissima nella vita adesso. Che cosa? Il saper guidare i droni. Sì, ma devi avere la patente. Esatto. Ah no, esatto, mettito dal suo hobby, non hai la patente. Scusa, io hobby videogiochi. E infatti ha più senso che tu lo utilizzi. Beh, io ho trovato il tutorial, te lo adesso glielo passo e lo guida lui. Cambia il cazzo. Va bene, chi lo usa? Scemo. Infatti dovremmo Vai, infatti Rega dovrebbe. Io farei una cosa così. Io passerei questa mezza giornata, cioè quel tempo che abbiamo, per imparare a usarlo. Un po'. E quello domani andiamo a vedere. Non so quanto sia difficile, quanto tempo penso ci vuole. Penso che non sia così semplice comunque. Ok, Sceo, lo usi un po', capisci un po' come funziona. Fermi tutti, dove siamo adesso? A Bologna. Non vogliamo casa partire. Di campo. Aspettiamo domani. Sì, andiamo in un campo. Sì. Adesso impariamo a usarle, domani andiamo là. Lo provate un po', che okay. Sceo si allena un po'. E il giorno dopo andate a vedere. Allora, quello che vedete è la stradina che Vezzo aveva visto. Mm-hmm. E a un certo punto c'è un cancello che non appariva su Google Maps. E intorno è tutto recintato. Quindi capiamo che... Quindi non è sotterraneo. Cosa vuol fare? Poi sono due ore che faccio punti. Mostra lo serto. Che cazzo vuoi? No, fermo. Scusa. No, te lo sbaglio. No, non capisco. Scusa. Salva next. Ah, sto giro ci portiamo gli auricolari, Ci portiamo tutta la roba. Passa montagna, tutto quello che abbiamo, ovviamente ce lo portiamo. Riprendo la pistola quindi, dalla cassaforte. Quindi capiamo che. Io ce l'avevo avuta, quando quindi capiamo che le foto. No, non capisco. Ah, dicevo, arrivate lì e c'è un recinto intorno. Lì da quella stradina. Okay. E quello quindi che capite è che la zona oscurata di Google Maps è equivalente di quello che c'è all'interno del recinto. Quindi da lì immagino che tu tiri sul drone, magari non sulla strada. No, ci imboschiamo con la macchina, la sera gli alberi. Di notte. Beh, allora aspetta, Quando sono andati? È sabato sera. Io un'oretta ho imparato ad usarlo e poi siamo partiti. Va bene. Secondo me. Cioè arriviamo lì di notte, ci sta. Sì, arriviamo la sera. Ci conviene parcheggiare e poi andare a piedi perché di notte si vedono i fanali della macchina. Se no spegni i fari e ti imboschi tra gli alberi. Beh, noi comunque da questa linea ci siamo dovuti passare per vedere cosa c'è. Sì. Poi siamo andati dritto e adesso ritorniamo. La macchina torna indietro. Li puoi fare dopo i casi. Sì, mi sta sul culo. Ma ci deve essere un modo qualche parte. Non è un problema, cioè. Come? Poi togliere il cellulare. Il cellulare. Come? Si scarica il cellulare. Quanti proiettili ha la pistola che ho ciucciato il tipo? No, ok, niente. Scherzavo. Beh, non è che camminiamo per la pistola che ci ha dato al tipo ha. No, però automatica, 15 proiettili. L'ora del viaggio e tutto. È sparato tre volte. 7 proiettili. Ascolta, lungo il viaggio mi sono fermato in un negozio a cazzo a comprare delle torce. Ok, segnati. Una terra. Torce vere? O pilette da usare a mano? Ok, né pippe né forse. Quante? Sei. Una testa, sì. Sei. Sono 20 euro. Sì, per testa. 6 torce. 20 euro a testa. 30 euro l'una. 30 euro. Sì. Ma che robe di quelle grosse? Ma no, da usare a mano. Ah, quelle piccoline. Sì, normale. Non è la strada. Ah, sì, una decina di euro l'una. Dipende che torcia prendi. Dipende se cosa vanno molto in base a quanta distanza illuminano. Se prendi quelle seghe che illuminano 2 metri. Se sono le seghine del Decathlon, esatto. Costano tipo 4 euro, quindi 10 euro non sono tanti. Sì, sì. Va bene, 10 euro. Ok. Andate via dal sentierino, immagino. Scusami, che mi sono perso un attimo, siamo già arrivati lì. Sì. E abbiamo già fatto le cose sul drone. No. Adesso si dovrebbe anche seguire. Chi lo sta, chi sta manovrando il drone? No, l'abbiamo appena fatto usare. Quanto possono i vestiti? Mi mettici in montagnolo? Oddio, sono 20 euro. Sì. No, 20, 25 euro. Per me metti esercizi. Io sono in tuta nera. Il problema è questo, che se tu ti fai beccare di giorno... No, sai, no. Sì. Appunto, metti i vestiti di nero. Cioè, di notte che cazzo non è cosa vuoi. Se ti beccano di giorno, sei sgamato subito. C'è anche quelli... Sono un cacciatore. Sto andando a cercaccio di funghi con una mimetica e un fucile. Conviene vestirsi di sono funghi passo, cattivi. Sono velenosi. Funghi nazisti. Vestiamo di scure e basta, secondo me conviene. No, non lo so, cioè ci sta in realtà la mimetica, però non so come dire. No, secondo me. Cioè, la verità è che non siamo mai ben equipaggiati. Dobbiamo farci una ragione. Abbiamo tutti i passamontagni auricolari, direi. Sì. Va bene, non mi interessa, voglio sapere dove mettete la macchina quando andate. La macchina andiamo molto più avanti, la mettiamo più avanti perché okay. Siamo qui. Dipende, più in là c'è tipo inizia un boschetto, dicevi. Sì. Ah, se no c'è posto per parcheggiare normalmente e poi tornare a piedi. Un posto che non si veda dal cancello, diciamo. Ok, cioè andate un po' avanti, un po' oltre. Sì, non 3 km. Vai, tirami sto cazzo. Io sono tutta nera, cosa vestito di nero e con il passamontagna e fucile. Sì. La faccio tiro. Tira sto cazzo di drone, un D8. Che macchina abbiamo preso? Un D8. No, la domanda, che macchina abbiamo preso? Vabbè, la mia... Ah, un'ottima domanda, che macchina avete preso? Solito discorso. Siamo in 6, giusto? Sì. Due macchine... La mia è proprio... No, Yak, scusami, è contato. No. Oppure andate con due macchine e poi quel pezzo finale con una sola. Due macchine, il viaggio di due macchine. E poi il sentierino non una sola. Sì, lo lasciamo in paese una tipo. Esatto. Sì. Quindi chi ha preso? Se volete io però la mia è la solita. Io posso prendere la mia. E due le dirà che l'abbiamo. Vabbè, la mia è una merda, però se volete la prendere. Ma perché lei? Adesso è un cubo di metallo in realtà, però il tempo è abbastanza tipo. La mia dice. No, la mia. No, che cos'è? La macchina di adesso scusa. È stata rottamata. Ah, adesso è un cubo di metallo. Vabbè, non mi interessa. Quindi quella di carta tira. Quella di arci? Io. 7. Ok. Riesci a far girare il drone e hai più o meno le planimetrie dell'edificio. Ah, quindi vede bene quelli che... Cioè, le planimetrie, hai più o meno un'idea. La grandezza, non è sotterraneo. No. Arriva. Cioè, non è sotterraneo. Quanto è costato il drone? Tutta nera, 17 settembre, stavo andando a video con te. Cosa è successo? Vedo le cose che scrive Bosi. Cosa ha scritto Bosi? Cosa? Su sul copy. Sì, ha detto che state giocando di merda. Oh, allora, dicevo. Allora, c'è una. C'è un edificio piccolino, non troppo grande, ha un piano solo, che vedete un po' oltre il cancello. Dopodiché vedi anche qualcosa tipo tracce di calore sotterranea. Perché quando è qui non parla, quando non c'è deve commentare le cose? Non lo so, puoi chiederglielo però. Ma che l'ha fatto? Il fatto? Così gli hack vengono ci può tornare. Foto notturne non ce l'avete. Cioè, dell'edificio non le potete no, fare. Del posto in cui siamo. La cioè, della strada. Le nel boschetto, anche un po'. Ah, gli hack. Tipo nel boschetto a 100 metri dove siamo, da dove sta sto posto. Descrivimi il posto intanto, così lo disegni. Ne vuoi una nuova, un foglio nuovo? Sì, lì c'è il coso. Se stai chiaro. C'è un piccolo tipo un segno bunker. Che ho fatto. Ah, dicevo, c'è un edificio esterno. Ha un piano solo. All'epoca no. Un edificio esterno. Sì. Un edificio esterno ha un piano solo. Vedete? E vedete però con l'infrarossi appunto che la struttura all'interno si ingrandisce. Allora, è a un piano solo, cioè è più grande di quello che c'è all'esterno. Ah, quindi piano vedete tracce di calore, esatto, più larghe sopra, questo è quello che c'è sopra. L'edificio è un edificio stupido di quelli tipo quadrati in prefabbricato, però in realtà è abbastanza spesso. Non tipo dai, un magazzino, ma deve essere solido. Esatto. E invece sotto vedete qualcosa di più ampio. Mm-hmm. Quindi c'è l'edificio è una minchiata con finestrelle, c'è una porta molto grande tipo hangar davanti. Mm-hmm. Probabilmente ha due o tre stanze all'interno. E sotto vedete la struttura molto più larga. Molto più larga. Sì. E vedete altre stanze. Ok, però non si capisce. No. Per le persone vedete due guardie all'ingresso. Fuori, sì, sopra. E in tutto una quindicina di persone all'interno. Tutto il resto è immerso nella boscaglia. Ok, il sotto. La sotto no. Questo è quello che vediamo con l'infrarossi o fuori? Compreso sotto. Sì, diciamo, compreso sotto. All'interno ci sono 2 più 15. Un paio di veicoli, vedete. Veicoli. Che si stanno muovendo, cioè si muovono un po' dall'esterno all'interno per quello che li vedete. Dall'esterno all'interno. I veicoli di che genere? Normali o cose strane? No, tipo jeep. Mm-hmm. Dall'esterno all'interno? Cioè, li vedete muoversi, entrare e uscire. Scusate, mi siamo rimasti quindi che noi scopriamo i numeri e le planimetrie, avvisiamo Void e poi vediamo come fare. Esatto, esattamente. Giusto. Non ho capito niente. Siamo rimasti che noi vediamo le planimetrie, quanti uomini ci sono e poi informiamo Void. Esatto. Sì. Nell'area recintata. L'area recintata quanto è grande? Rispetto alle. Cioè, l'area recintata è molto. Più grande l'edificio, dici? No, non so quanto è grande l'area recintata, il recinto. Considera che contiene anche la parte sottostante. È molto grande. Parecchia. Allora, per sapere. Ci sono anche guardie che fanno la ronda? No, vicino, no. Solo vicino all'edificio. Ok. Telecamere? Non vi pare dal drone, ma non è che abbia la risoluzione di Dio. Okay. Allora, quindi abbiamo visto così. Esattamente. Possiamo intanto parlare con Void e poi arriviamo. Adesso. Sì. Quando vi pare, per me. Okay. No, domani che avevo lezione. Vabbè, a andarci senza dormire. Cioè, vabbè, l'ho fatto. Ieri vedi come ti giuri tu? Vabbè, raga, parliamo piano, se vuoi. L'ho visto, ma se ne vabbè, perché a settembre non si può usare la tuta nera? Non lo so, ma vede che non la lava di nuovo. No, è tipo... Perché lì 17 portano... No, scherzo. Una foto di un punto nella foresta lì vicino. Quindi nel caso di ci può tornare se bisogna. Ma scusami una cosa. Aspetta, ma anche senza foto, se lui lo vede ci può tornare. Sì, senza foto anche. Ah, è lì con voi. Sì, è lì con voi. Vai, cosa dobbiamo cercare? Più che altro potremmo adesso parlare con voi o comunque mandargli un messaggio insomma di quello che abbiamo scoperto e domani all'alba subito a rimandare il drone e fare qualche foto velocemente senza essere sempre il drone che ha coperto, però di giorno ci lo faccio vedere un po' più chiara subito nella battuta nella sì di beh qualche foto ditemi voi qualche voi. Foto anche con infrarossi la cosa abbiamo fatto sì l'ha fatta l'avete fatta però non però per gli altri ovviamente non posso tipo se provassimo a fare nel un giro intorno non c'è niente fare il giro intorno non mi pare di vedere niente ci guardi possono vederti no ma là stanno larghi di notte potete provare a nascondervi di giorno è non dico che è aperto ci sono un po' possiamo di alberi possiamo andare però... potresti provare ad andare o da tipo una finestra però no? C'è le guardie ci sono due guardie lì davanti lì davanti e dietro non c'è nessuna finestra no sì ci sono finestre nell'edificio sopra. Però il drone fa rumore comunque, ce l'ho a mettere a fare rumore e... Dai, brutta. Ha le luci? Mi spegniamo nel caso. Beh, è una finestra, se non vediamo robe rosse vicino, potreste andare. La finestra è diventata OP a pilotare. Soprattutto a buio, perché quel cazzo fai a vedere. Dovresti riuscire a vedere almeno dove è per uscire però... ho trovato la finestra no tu vedi tramite lo schermo hai uno schermino nel coso vabbè posso provare ad avvicinarmi ma la finestra dove mi non sembra vediamo. Una cosa abbastanza fattibile o mi sembra una cosa da mitigarlo subito cioè allora tu non hai visione per capire questo, però dall'alto io vedo questo è l'edificio la parte esposta. Qui c'è l'hangar con le due guardie, giusto? Da quest'altro lato ci sono finestre? Sì. Ci sono persone? Persone non le vedi. All'interno, intendi? Sì. No. All'esterno no. Vabbè, però scusami, se il drone va dalla finestra, c'è una finestra, esatto. Tipo, ciao drone! Sì. Nel senso, tra notte fonda. Però è... 900 euro. No, sfiga, però no. Domanda, invece a rischiarmi semplicemente ad avvicinarmi al setto. Cioè, secondo me sicuramente è meglio rischioso adesso che di giorno, però vedi il cazzo che puoi fare quello che vuoi. Ah, la mia domanda è se mi avvicino al di là del dove. Invece un altro scemo se sì, di notte. Allora mi è tutto rosso però. Oh, io non ho mai guidato un drone. Scemo poi andi il drone tipo a me passando vicino agli alberi, tipo ogni scoiattolo, gufo. Non se lo vede il lumino, lo so. Cioè può muoversi anche in verticale. Sì. Quindi quello potrebbe essere un po' diverso. Io rallento, scendo piano. Puoi provare. Sul tetto. In modo che le cose non facciamo proprio questo. Così oltre alla polizia legale ci becchiamo anche contro la forestale. Tutti. Vedi? Sempre di 8. Però vorrebbe farlo Giulio benissimo. Sente di nuovo. Ok, riesci a avvicinarti. Mi sono calato sopra il tetto però così. E sembra che non sia successo niente. Cioè nel senso sembra che non siano scattati allarmi eccetera. Però l'immagine è più nitida. E hai un'immagine un po' più nitida. Vedi che sul tetto ci sono due telecamere. Porca. Nel caso. E... che danno però verso il basso ovviamente sì. E non vedi nient'altro e riesci a avere un'immagine un po' più nitida dell'interno quindi delle stanze e di come è fatto dell'interno cose che mi possono interessare riusciamo a capire dove rispondiamo a tutto la stanza di Jack no perché stanza di Jack non ha finestre ma vediamo tante cipocelle robe così. Allora dalla visione che ha Sceo adesso sul suo schermino non vedo una sega praticamente. Quello che dovreste fare probabilmente è andare a casa, scaricarle e studiarle bene anche perché l'immagine è sovrapposta di più piani. Va bene, sono più piani sotto. Sicuramente sono due, quello sopra e quello sotto. E quindi non capito un cazzo. Va bene, dai, Sceo è stato bravo, direi che intanto vediamo cosa abbiamo e poi nel caso. Però posso dire addio adesso con le luci accese Specie prima di venire via del tutto gli faccio perlustrare faccio fare un giro cioè alzandosi ovviamente, e come posso spiegare, nell'area tra l'edificio e il recinto, cioè per un'ulteriore conferma che ormai sono qui uno. La porta, torna a casa, la vittoria! Boom! Senti che schianta contro un albero e cade. Dentro le recinto? Sì. Cosa vedi? Ah, e sono lì dentro le immagini? O ce le abbiamo scaricate da qualche parte? No, ce le hai scaricate. Quanto vicino? Non vicinissimo, tipo sul retro di un alberello. E cosa vedi? Puoi vedere la lì? Non vicinissimo. Puoi rimettersi in volo, è rotto. Non hai più segnale, tipo... Vedi tipo le cose, l'immagine grigia della TV. Hai fottuto il drone, scemo. Ha fottuto il drone, ragazzi? Ha fottuto il drone, carta. Ha fottuto il drone, carta. Vabbè, ricarico l'ultimo salvataggio. Perché okay. È un video gioco. Niente. Vabbè, abbiamo le foto, no? Recupera quel cazzo di drone. Non riesci? È dentro il recinto. Tu arci e vedi il peso, perché... Sì, no. Un fucile di... Vabbè, il coglione di Axis... Quanto pesa? Quanto pesa il drone, Salla? Quanto pesa il drone? Quanto pesa il drone, Salla? Parla col tuo amico e di andare a prendere. Devo fargli un piacere. Una telecine. Fagli un piacere, fallo rendere partecipe e protagonista di questa scena. Ma mica la stanza aperta. Forse Arci riesce a risolvere la situazione. Ah, se poi sì, no, se no Axis. Si teletrasporta lì, lo prende, si teletrasporta di qua. Il portale là è fatto. No, il portale Yak lo apre per andare da un posto all'altro. No, per il suo direttore. No, appunto, quello in cui lui mette gli oggetti, no? Sì, no. Non è che lo prendi, no, da dove è. Quello è una specie di sacco che lui ha con sé. No, però si può teletrasportare lì. Lo può solo in sua prossimità. Sì, ma comunque poi ci mette dentro roba, non è che da lì prende delle cose inesistenti o che sono da altre parti. Sì, no, sì, però può teletrasportarsi. Distanza, sì. Però deve... Forse risolviamo. Guarda che prezzo gli ha fatto di favore. Vabbè, dai. 2,50. No, questo è molto più pacco di questo qui. Le immagini non è così. Allora, distanza. Pesanti quanto il massimo del suo dado controllo, quindi 8 kg. Infatti un drone vero non avrebbe evitato il Sala, qua dice distanza. La geolocalizzazione Sala. E la videocamera. Bersaglio distanza. 8 kg. 8 kg, posso muoverli per tanti metri per round, pari a 4 metri. La distanza, scusami? Bersaglio distanza. Distanza è tipo il dado controllo per... Vabbè, hai detto che non è un... Cioè, scusami. Cioè, vabbè, un D8 comunque. Lascio vicino a vederlo, se no. Anche se vicino al recinto lo fa. Te l'ho visto, perché da quello qui è della parte retro. Dall'altro retro, quindi. Corta, tanti metri per il massimale del controllo, 8 metri. No, sono realizzati. Allora, hai sono degli alberi di 8 40% di possibilità che sia all'interno di 8 metri. Dal gratta ci vuole un dado percentuale. No, lui sbattuto, tu hai sbattuto contro, lui sbattuto contro cosa? Ti dico già che pesa un paio di chili. Quindi e mi sollevo 8. È vero. Cioè, è gelo. 40% di possibilità che si avvicini. Dovrebbe tirare lo scemo, no? Lo tiro io. Tira tu. Quindi 40 che si avvicino. Quale 40? Tiro. No, troppo lontano. Anche se io vado verso il recinto. Ok. No, è dico la distanza dal recinto. Cioè dal recinto all'interno. Quindi se io mi spatacco contro il recinto è comunque troppo lontano. Esattamente. Ah, allora posto. Allora cominciamo a togliere le tende. Togliamo le tende? No, aspetta però. E vabbè, chiudiamo qua. Beh, se c'hai qualcosa da fare in 10 minuti. Più di 8 metri dal. No. E vi dai punti esperienza poi. Allora. Chiudiamo qua in cui voi tornate a casa tristi perché no, aspetta, non no. Non so se lo possiamo lasciare lì un macello. Aspetta, no, fermo, dobbiamo recuperarlo. No, raga, non posso. No, non cagare il cazzo. È dentro il recinto però. Però non sappiamo dove. No, ragazzi, se ci fosse un allarme nel recinto. Sarebbe già suonato perché c'è caduto il drone. Il drone può cadere magari nel recinto senza farsi sentire. Ragazzi, secondo me l'ideale è se lo lasciamo lì e... Così domani lo scoprono, vedono la sorgente del segnale e arrivano. Perfetto, idea geniale. No, raga, non... Vabbè, allora buttiamo via anche il joystick e tutto però. Tu la prova a riattivarlo, scemo. Ci ho provato, non mi dà segnale. Va bene, mentre voi pensate, chiudiamo l'episodio. Vabbè, però possiamo rimanere qui e non tornare a casa. Scusa Sheo, tu non hai la super mira. Sparagli. Certo, no, non mi sembra. No, tu hai la super mira, no? Sì. Se noi lo riusciamo a locare. Lui magari ha 8 metri dal recinto, no? Se tu con un sasso o un oggetto che non lo spatacchi, lo provi semplicemente a tirare in modo che si avvicini anche solo di un po' al recinto, poi io posso prenderlo. Allora, se io vado dal recinto e vedo l'oggetto, come posso avvicinarmi? Ci vai dalla parte opposta, ovviamente. Sì, l'unica... Devo tirare una cosa, superare l'edificio a 200 metri. No, l'unico modo senza farsi sgamare l'unico modo senza farsi sgamare è quello, è usare gli hack. E Maria, se c'è un allarme? Se c'è un allarme... O un lazzo. Ti riteletrasporti e finisci. Noi andiamo alla macchina. Tu da lì ti teletrasporti lì, così sei già alla macchina e dopo scappiamo. No, raga, e una corda con rampino. Non si può usare una corda con lazzo per Sheo, per la super mira. Però così dopo ci fottiamo abbastanza, nel senso che l'unico che si salva è Yak, per il potere trasportarsi. Se li scoprono. Esatto. Può provare. Che è probabile. Va bene, ci provate al prossimo episodio, perché questo è finito. E, dunque vi do... 3 punti esperienza a testa, più 1 arci per aver trovato Void, 1 catta per la casa, 1 sceo per... Io non ho capito, solo perché uno è un imprenditore immobiliare, sì. E beh, lui è un merita un punto esperienza in più. Lui è un più. Vabbè, e quanti io? Un in più tu, ho detto. Oh, che se adesso lo credo. E un in più Vez per aver convinto gli altri. Quindi qua c'era tutto. No. Sorpresa. Ciao, Giulio, quanti punti hai avuto? 3. E vabbè, il punto abilità, show, mettitelo. Figo, hobby, però. Drone. E quello è figo. E basta. A me l'hai dato sul serio, perfetto. No, metti tu. Cosa te ne fai? Mi spieghi solo velocissimo. No. La differenza tra rango e puntabilità, scusa. Che il rango ti aumenta il dado. Ok. Puntabilità. Quindi uso il D8 del 6, per capire. Per avere il rango 1 di rango, devi spendere 5 punti abilità. Ah, quindi quando arriverò quindi 5 per... 5 avrò un rango. Esatto. Okay. Cioè puoi spendere quei 5 per avere un rango. Poi per avere il 2 devi spenderne 5 per 2, okay. Quindi 10. Mi scade l'azzimento? Ah, ok. Sì. Ok, vabbè, quando avete fatto. Quindi ogni volta che uso, diciamo, il drone, prendo per il drone. Non è ogni volta che usi il drone, ogni volta che usi il drone in modo figo e senza far casini, o allenandoti con quello, sì, con il drone. Tipo oggi. Molto bene. Avete visto il 10° episodio. The Unstructured Heroes. 18.000 euro per un bypass gastrico. Non è successo molto. Beh, insomma. Ma comunque è il 10° episodio, quindi è un bel traguardo. Siamo finiti nella città toscana dei cinesi. Avete visto Yak che si è bagnato la giacca e questo in effetti valeva tutta la puntata. Valeva il prezzo di e ha lanciato delle occhiate d'odio ad Arci che possiamo rivedere tutte le volte che vorremmo su Facebook. Che sarà nella foto copertina in vicino al disegnino di Void, c'è Yak. Non c'è, ha lanciato occhiate Arci. Ci vediamo nella prossima edizione. Prossima puntata. Prossima edizione, proprio. Cambiamo il gioco. Prossima edizione, ok. Questo è finito, finisce così. E poi ci leviamo dal cazzo, e poi ci leviamo dal cazzo, se no catta c'è un e poi ci leviamo dal cazzo. No, ciao a tutti e non ci sposerà tutti noi l'amico ma su catta che non ti se ne frega. E non vedrete mai più questo master col palo. palle. No, forse lo vedo. Mi tocco le palle. Non è la stessa Valsiglia. Certo. Magari. Magari quando vengo. Con lui a Bologna, però. Quello si può fare. Va bene. Altro che dire. Al prossimo episodio. Facciamo la stessa Valsiglia col master a Bologna. Luigi. Questo era uno. Sembra maledettamente enorme in questa maglia. E anche agli amici del podcast. Un saluto strutturato.